Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, oggi sono a servizio di due signore, Viola Bottoni in redazione, Valeria Bernardi in regia che sta aspettando il derby della capitale. Andiamo subito ai campi di calcio dove è successo ma neanche poco, di più, a livelli record quasi. Dario Ricci mi aiuterà a raccontarvi quest'ultimo quarto d'ora più recuperi di partite. Come stanno andando, Dario? Beh, Carlo, finora la contabilità dei gol è veramente facile perché si è segnato solamente a Novara e il Bologna è in vantaggio per 2-0, due tiri, due gol per i felsini all'esordio di Pioli in panchina. Bologna avanti appunto con doppio vantaggio al 49esimo del primo tempo, in pieno recupero la rete di Ramirez, al 19esimo della ripresa il contropiede, il più classico dei contropiedi, il raddoppio di Acqua Fresca, in mezzo tanto Novara che sullo 0-0 aveva preso il palo con Paci, e poi c'è stata anche nella ripresa l'espulsione del tecnico però piemontese Tesser, sostituito ora in panchina da Strucheri. Uno sguardo anche a quanto sta accadendo invece a Verona, ancora 0-0 tra Chievo e Juventus, ma Juventus che sta forzando i tempi. Al 25esimo è entrato Del Piero al posto di Marchisio, tre minuti dopo il capitano bianconero ha colpito il palo di testa, cross di Pepe dalla destra, Del Piero tutto solo nell'area clivense è stato bravo sia a liberarsi, ma di testa poi ha colpito il palo alla sinistra di Sorrentino, e al 29esimo c'è stato un sinistro di Pepe da fuori area, stavolta bravo il portiere del Chievo a salvare in angolo. Intanto Genoa-Lecce 0-0, al 35esimo però espulso Calazze per doppia ammonizione, 0-0 su tutti gli altri campi finora, Carlo. Quindi 0-0 anche per le capolista provvisorie Juventus e Udinese, la Juventus che sta premendo forte comunque in questo finale di partita. Naturalmente avremo poi tutto il tempo per parlare anche con voi, anzi soprattutto con voi, di quanto abbiamo visto ieri, che poi è il senso di questa giornata, aspettando il derby della capitale, cioè l'Inter che si arrende, io credo, in maniera definitiva a Catania, perdendo 2-1, il Milan che invece rialza la testa con l'ex depresso Ibrahimovic, migliore in campo, e batte 3-0 il Palermo. E il Napoli che paga, secondo me, il sogno della Champions, perdendo 2-1 in casa con il Parma. 800-24-00-24, vi do già il contatto così potete cominciare a prenotarvi. Intanto vado sulla cronaca della mattina, che è ricchissima, perché rugby poi ne parliamo, c'è stata l'altra finalista ai mondiali che è la Nuova Zelanda, padrona di casa, che ha battuto l'Australia, ma soprattutto in Australia c'è stata l'assegnazione di un titolo mondiale, quello del moto mondiale. Casey Stoner che ha vinto questa gara, Lorenzo che è andato fuori nel warm up, si è fatto male, ha dovuto rinunciare a questa corsa, forse gli sono ceduti i nervi, non lo so, tra poco lo chiedo al mio ospite che vedo già in linea. Dunque Stoner davanti a Simoncelli, Dovizioso, solito ritiro per Valentino Rossi, che ormai è molto più di un caso, e si è corso anche in Formula 1, qui il titolo è già stato assegnato una settimana fa, però vince Vettel, tanto per cambiare, il titolo costruttori va, tanto per cambiare, alla Red Bull. Hamilton secondo, Webber terzo, quarto Button, quinto e sesto, due Ferrari come in prova, stavolta davanti Alonso rispetto a Massa, Alonso quinto e Massa sesto. Ma voglio parlare del moto mondiale che si è chiuso nella classe regina. Roberto Ungaro, direttore di Riders, ciao direttore. Ciao Carlo, saluto a tutti. L'antipersonaggio Casey Stoner. Il vero antidivo. Il vero antidivo. Se c'è un cono d'ombra, lui scappa da un'altra parte. Un cono di luce scappa da un'altra parte. Lui nel contratto chiede di non avere giornate a disposizione per lo sponsor, per fare promozione. In un mondo dove si è obbligati ad essere personaggio, lui è l'antidivo per eccellenza. Sì. Non ha un tatuaggio, non ha mai fatto una buttad. Si è fidanzato giovanissimo, si è sposato giovanissimo e a breve avrà un figlio, a 26 anni. Sì. Appena può torna a casa in Australia, non sta in giro, e insomma è il vero antidivo, è quello che fa la differenza. Allora, per ricordare, Stoner è stato l'unico in grado di domare la cavalla selvaggia rossa, cioè la Ducati, l'unico a vincere quel titolo. Nel 2008 era diventato Rolling Stoner perché messo sotto pressione da un Valentino Rossi, allora cattivo, aveva preso il vizio di finire per terra, sembrava sotto pressione davvero. Nel 2009 è stata la stagione dei mal di pancia, che non erano quelli di Ibrahimovic, ma di questo stress profondissimo, e adesso è tornato lui campione equilibrato sulla moto più equilibrata. Assolutamente sì, è veramente bella questa favola, perché così si può chiamare. Lui si vedeva subito già in centro di 5 che andava fortissimo, questo ragazzino che i genitori, penso australiani, hanno portato in Inghilterra, perché si poteva correre un anno prima. In Australia bisogna aspettare i 16 anni, in Inghilterra 15, e quindi vendono la casa e con una roulotte vecchissima, condivisa tra l'altro con un altro pilota, Chas Davis, che ha vinto oggi la Supersport, addirittura dormiva fuori dai circuiti, fuori proprio dal portone d'ingresso, a volte non lo mettevano neanche dentro. Insomma, hanno scommesso su questo ragazzino quindicenne e è andato subito fortissimo, cadeva tanto, ha provato in 2,5, poi è tornato indietro in 125, si è visto che il potenziale c'era. 2006, primo anno della MotoGP con Cecchinello, però lì il soprannome Rolling Stoner cadeva tanto, aveva le Michelin però. 2007 passa in Ducati, unica con le Bridgestone, una gomma che davanti era molto sincera, un binario. Ecco che lui non cade più, non è più Rolling Stoner, e conquista con 6 vittorie incredibile la stagione 2007, campione del mondo con una Ducati. Si è sottovalutato la sua prestazione, si diceva che la Ducati aveva fatto l'80% di quella vittoria, in effetti la Mille andava fortissima di motore, ma se calcoliamo la performance globale ci ha messo veramente tanto del suo. Poi 2 stagioni opache, lui è caduto, si è rialzato da quell'intossicazione che ancora non si è chiarita, e poi basta, non sentiva l'avantreno, un po' si lamentava, in Honda è risorto e ha conquistato questo titolo che glielo si deve, quest'anno l'ha conquistato veramente mettendoci del suo. Certamente, direttore, è sbagliato pensare che a Lorenzo, che si è lamentato per le prestazioni della Yamaha, che era molto nervoso, siano un po' ceduti i nervi, perché uno come lui che cade nel warm up e si preclude la possibilità di continuare a combattere per un mondiale con questa caduta, è possibile leggere in questo modo o no? Un po' sì. Lorenzo qui avrebbe o spaccato, nel senso che avrebbe fatto risultatone, avrebbe fatto di tutto per stare davanti, o altrimenti avrebbe rischiato tanto. Lo ha fatto con un grande anticipo addirittura nel warm up, però è il risultato di questa pressione, perché aveva solo un'unica possibilità, o andava o spaccava in questo senso, e quindi via lui non c'è stato assolutamente nessuno in grado. Gara piuttosto incolore, perché avara di sorpassi, di spettacolo, se non che a 3 giri dalla fine la pioggia ci ha regalato un po' di brividi. Però se deve essere la pioggia a regalarci dei brividi, questo bisogna deve portare a far riflettere. Fuori le Yamaha, ok, 4 Honda davanti, ma Honda si sa che cos'è. Interessante quando hanno intervistato il meccanico Gagni, che ha detto: quando ti hanno chiesto di andare via dalla Ducati alla Honda, quanto ci hai messo? 2 decimi. Forse non lo sanno gli addetti al settore, ma Honda è Honda, e poi c'è tutto il resto. Loro dovevano vincere l'ultima stagione di 800 e così hanno fatto. I regolamenti, diciamo, non è che li scrive Honda, ma Honda è la spina dorsale del motomondiale, poi il resto è un po' un colorario. Però è interessante questa cosa, e ci sono delle riflessioni da fare. L'anno prossimo 1000 si tira una riga, nuovo motore, quindi vuol dire che le moto clienti, le moto ufficiali sono molto molto più vicine. Quindi non so, un Dovizioso che se ne va in Yamaha, gli addetti al settore dicono è finito, perché se non ce l'ha fatto con una Honda non ce la potrà mai fare con un'altra moto. Però è anche vero che 1000, per questo fatto, per questo fattore tecnico, saranno molto molto più vicine, perché non c'è un'evoluzione in corso, e quindi la moto dei clienti non è ancora Serie B, sono praticamente tutte uguali. Certo. E poi Valentino, non si capisce perché è caduto. Guarda, io l'altro giorno leggevo l'intervista di Mick Doohan, no? Che ha avuto il coraggio di dire quella verità amara, che noi allontaniamo, no? Non ci vogliamo credere, quel calice lì non lo beviamo. Però Valentino, insomma, non lo so se bisognerebbe avere il coraggio di far scendere il sipario sulla sua leggenda, però certo è strappa al cuore vederlo arrancare in fondo agli schieramenti di tutto il mondo. Sai cos'è? Che in prova non ci crede neanche lui, e infatti vedi dov'è, è rinunciatario. Poi in gara, la sua esperienza, comunque la sua voglia, riesce a fare qualche cosina. Il problema vero è che la Ducati l'anno prossimo deve fare una non Ducati per riuscire a dargli una moto che lui riuscirà a guidare. Perché, ok, arriverà il telaio perimetrale, dovranno rifare il motore, perché il motore deve essere più piccolo, perché... Per farti un esempio, ad essere chiaro con tutti, il motore portante è strutturato per reggere il tutto. Prendete una trave, se deve reggere un muro ha una certa dimensione, ma se deve essere un qualcosa a cui tu appoggi una mensa o delle cose, non sarà strutturata. Quindi ecco che il motore devono rifarlo completamente, gli fanno un telaio, non hanno esperienza di telaio in Ducati, perché non l'ha mai avuto un telaio vero, quindi c'è da fare delle scommesse, e soprattutto la V aperta di cilindri vuol dire maggiore ingombro. i quattro cilindri in linea, ecco perché si dice alla giapponese, perché è una disposizione tale che tu sei praticamente sull'anteriore, sì. Perché il motore è molto compatto, perché hai i cilindri tutti in linea, sulla stessa certo. linea appunto. E quindi capisci che ci sono tante tante incognite, la Ducati deve veramente quasi fare una non Ducati per riuscire a... staremo a vedere, però secondo me è molto difficile che ci sia una moto competitiva da subito, anche perché non possono provare. Altra riflessione, sei motori massimo in MotoGP, sai Carlos cerca quest'anno per vincere il mondiale in Superbike con le derivate di serie quanti motori ha utilizzato? 18. C'è qualcosa che non va, parliamone. Certo, cioè certo. Le moto derivate dalla serie possono fare quello che vogliono in questi termini, mentre qui no, non lo so, è un po' tutto da rivedere. E soprattutto nella direzione di tornare a vedere lo spettacolo, quello sì. Sì, perché quest'anno Valentino no, ci siamo un po' annoiati alla fine. Sì, giù il cappello davanti a tutti, perché è sempre e sarà sempre così. Però le gare spettacolari sono un'altra roba rispetto a quello. Sono un'altra cosa. Io le commentavo, me le ricordo, sono un'altra cosa, assolutamente. È bello vedere quando ci sono le scintille tra Dovizioso sì. e Simoncelli, ma è una questione personale. La vedi che è un'eredità delle mini moto portata e proiettata qui. Due stili diversi, un aggressivo pennellone con questo fisico, l'altro invece calcolatore minutino, ok, però non può reggere tutto su questo, lo spettacolo certo. di una MotoGP. Certo. Direttore, è sempre un piacere parlare con te, grazie, alla prossima. Senz'altro, è un piacere grazie. Per me, grazie. Saluto. Grazie a Roberto Lungaro, direttore di Riders. Ci fermiamo per il traffico, poi subito da Dario Ricci, anche se, ahimè, temo non ci sarà moltissimo da raccontare. Traffico. Nuova Volkswagen Passat Variant con leasing finanziario a 280 euro al mese, TAEG 4,90. Vi presenta Strade in diretta. Lungo il tratto appenninico dell'autostrada del Sole ci sono code di circa 2 km tra Roncobilaccio e Rioveggio verso Bologna, un'autovettura ha perso il carrello sulla corsia di sorpasso. Sulla 15 della Cisa ci sono code per lavori tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e Aulla sulla carreggiata verso Parma. Code per lavori 3 km in questo caso anche sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Code per il traffico intenso sulla 11 Firenze-Mare in uscita Lucca Est sulla carreggiata in direzione Pisa e sulla 7 Milano-Genova all'uscita di Serravalle verso Genova. Circolazione scorrevole sul resto dei percorsi è tutto, torniamo tra mezz'ora. Tempo di sport. Io vi aspetto per commentare questa giornata sportiva 800 24 00 24 numero verde, certo non per commentare magari le partite di questo pomeriggio che sono forse cosa da record. Dario Ricci, successo qualcosa o no? No. Siamo veramente ormai agli sgoccioli, anche se ad esempio Genoa Lecce ha 5 minuti di recupero, ma insomma ultime battute e rimaniamo fermi ai due gol del Bologna a Novara, ma qualcosa di interessante sui due campi principali a Verona, Chievo Juventus al 35esimo, l'esordio in Serie A di Estigarribia al posto di Giacquerini, e poi al 39esimo è stato il Chievo ad andare vicino al vantaggio, un calcio d'angolo di Bradley, Pellissier si trova sulla piede la palla buona, cerca la deviazione decisiva, pensate, Del Piero a salvare sulla linea. Atalanta-Udinese ancora 0-0 anche a Bergamo, al 35esimo però sinistro dell'atalantino Peluso, Andanovic salva in angolo, al 39esimo ancora una parata decisiva da parte del portiere sloveno, testa di Tiribocchi, stavolta è un vero e proprio miracolo, Andanovic toglie di fatto la palla dalla porta, risultato ancora fermo quindi sullo 0-0, così come su tutti gli altri campi tranne a Novara, dove il Bologna, come dicevamo, è in vantaggio per 2-0. Carlo, grazie Dario, naturalmente rimani collegato con noi per questi minuti di recupero. Intanto notizia per tutti i napoletani, sarà Benchierenzia a fischiare la partita dei record di incasso, di pubblico, dei sogni, di quello che volete, tra Napoli e Bayern di Monaco. Benchierenzia che è stato l'arbitro che ha diretto la mentre per Lille-Inter c'è anche questo arbitro, è stato scelto l'inglese Webb, che diresse, arbitro di gran livello, diresse la finale degli ultimi mondiali tra Olanda e Spagna, quindi gli arbitri di Champions sono questi. Però rimarrei sui temi di giornata, peraltro giornata poverissima, come avete sentito, di gol soltanto due nella stessa partita, e peraltro il Bologna di Pioli oggi è anche fortunato perché ha tirato in porta due volte, un Novara arrembante nel primo tempo e un Bologna che ha colpito in contropiede con Ramirez acqua fresca. D'altra parte la giornata si era capita dal mattino, dall'anticipo delle 12.30, cioè Cesena-Fiorentina che è finita, indovinate un po', 0-0. C'è Emilio Buttaro che ci ha mandato però un po' di contributi e ve li facciamo sentire, a cominciare da Mihajlovic. Mihajlovic come commenta questo pareggio? Ma penso che, diciamo, il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, aperto da qualsiasi risultato. Vero, loro hanno preso due traverse, sempre un tiro deviato e un tiro da 25 metri, e hanno avuto il secondo tempo un'occasione con Mutu. Noi il primo tempo qualcosina, ma il secondo tempo molto di meglio. Abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, abbiamo creato anche, ma siamo stati sempre poco cattivi davanti a porta, perché abbiamo tirato poco in porta. Ci sono state 3-4 occasioni dove si poteva calciare da 7-8 metri, invece abbiamo preferito fare l'ultimo passaggio. Perciò una partita, diciamo, su 1-1, 0-0, diciamo, potrebbe essere anche giusta, ecco. Anche se, diciamo, ai punti potevamo vincere da noi. Abbiamo sentito anche alla fine un coro dei tifosi, salta la panchina viola, lei cosa risponde? Ma io sono ormai abituato, sai? Quando stai a Firenze poi dopo ti abitui a tutto, perciò non è un problema. Questo era Sinisa Mihajlovic con Emilio Buttaro. Sinisa Mihajlovic, beh, oggi insomma Fiorentina non ha giocato una grande partita. Sapete della vicenda Vargas, a me come personaggio Mihajlovic piace. Ieri in conferenza stampa Vargas non convocato perché? Non una pietosa bugia, ma la verità. Fa tardi la notte. D'altra parte Vargas, dopo un'estate in cui è stato accostato a molte squadre, sto vedendo per caso la Juventus e quella è una di queste, beh, sembra non sia così calato nella realtà viola. Non ha più voglia di rimanere lì, quindi altri impegni, altri passatempi, non sembra particolarmente dedicato a questa Fiorentina. E dunque è stato lasciato a casa da Mihajlovic con tanto di spiegazione puntuale. Sentiamo anche un episodio di questa partita, è stato l'espulsione di un Mutu molto molto molto nervoso. Emilio Buttaro ha parlato con Giampaolo. Giampaolo, l'espulsione di Mutu, seppur avvenuta nel finale, quanto ha condizionato la partita? L'errore tecnico viene, dal mio punto di vista, viene concesso a tutti i calciatori. Passaggio sbagliato, il rigore sbagliato, no? Due settimane fa Adrian ha sbagliato un calcio di rigore, ma io ho detto che sbaglia chi si assume la responsabilità di un'iniziativa. Quindi va bene, non succede niente, si va avanti. Il fallo di reazione è un errore che non bisogna commettere, ma questo vale per Adrian, ma per qualsiasi altro calciatore. Non posso lasciare la squadra in 10 per un fallo di reazione, che è cosa ben diversa da un errore tecnico. Poi è andata bene, ma abbiamo faticato, abbiamo corso, abbiamo dovuto chiamare a raccolta tutte le nostre energie e abbiamo rinunciato ad un calciatore che può essere sempre pericoloso nelle sue incursioni offensive. Questo Giampaolo, dunque, che non le manda a dire a Mutu. Dario Ricci, niente, eh? No, niente, Carlo. Niente. Ultime battute, però a Verona c'è la munizione per Sorrentino. Sorrentino, c'è la Juventus ancora in avanti con un calcio di punizione dal lato destro della zona d'attacco, che se abbiamo tempo forse vale la pena seguire, perché è veramente l'ultimo assalto dei bianconeri. Ci seguiamo questa punizione. Ecco, c'è il Pirlo sul pallone. Pronto alla battuta, schermaglia in aria, interviene nuovamente l'arbitro, nuova ammonizione stavolta vediamo per... se la battono. No, dico, vediamo se la battono sta punizione. Vediamo se riescono a batterlo, perché Chiellini, che adesso si sta spintonando con un altro giocatore del Chievo, probabilmente con Morero, e insomma vediamo se riescono a farcela per la fine della trasmissione. Sì, che finisce alle 19. Ecco, sì, comunque sì, guarda, io intanto vado arriva piano Pirlo, arriva ancora, prende la ricorsa, ecco, prende una posizione in area. Punizione, respinto il cross dalla difesa del Chievo, da fuori il tiro è fuori anche in questa occasione. Finita 0-0 per la Juventus sul campo del Chievo a Verona, e tutte finite le partite. Se vuoi riepiloghiamo al volo i risultati, sì. È facile, Bologna che vince a Novara per 2-0 al 49esimo del primo tempo, Ramirez al 19esimo della ripresa, acqua fresca, e poi tutti 0-0 a partire da Atalanta Udinese, Cagliari Siena, Cesena Fiorentina nell'anticipo di mezzogiorno, abbiamo appena sentito i contributi dal Menti, poi Chievo Juventus Juventus Genoa Lecce stasera alle 20:45, il derby della capitale. 6 partite, 2 gol, tutti nella stessa partita oggi, domenica da ricordare. Dunque, abbiamo un minuto per che è davvero poco, vero? Un minuto per capire come è stato disegnato il Giro d'Italia dell'anno prossimo. Un minuto mi sembra davvero un'inezia, irrispettoso per questa corsa. Pertanto io rimanderei il collegamento con Pier Augusto Stagi a dopo il giornale radio che stiamo per sentire. Vi ricordo intanto i nostri contatti, perché vabbè, le partite del pomeriggio ci hanno offerto, come avete sentito, pochissimi spunti. Abbiamo una classifica che lascia Juventus e Udinese, che hanno pareggiato entrambe 0-0 in trasferta, in testa con 12 punti. Nessuna delle due riesce ad allungare. E quindi uno dei temi mi sembra certamente questo vuoto di potere al vertice. Ma sto scudetto chi sopiglia? L'Inter no, perché partenza peggiore della sua storia, crisi nera, non ce l'ha fatta nessuno mai a risalire da così in basso a 4 punti. In questo momento è penultima insieme a Bologna e Lecce con, a quota 4 appunto, peggio ha fatto solo Cesena con 2 punti. Allora l'Inter non se lo piglia. La Juventus non lo so, vediamo, però oggi se vuoi lo scudetto e in un momento come questo devi andare a Verona e vincere, perché hai la possibilità comunque di allungare sul Napoli che ha perso. Napoli se lo piglia, non lo so, Napoli sta sognando con la Champions, però ieri ha perso col Parma. Il Milan che sta risalendo pur con tutti i suoi problemi è quella ancora con maggiore talento, però il ritardo non è poco, poteva essere peggio perché sono 4 punti tra il Milan e la Juventus in testa alla classifica, però non dà questa impressione di poter ammazzare il campionato il Milan. E chi se lo prende? La Roma? Valeria Bernardi? Non lo so, ditemelo voi. 800 24 00 24, numero verde, dopo. E allora un campionato in cerca d'autore o di padrone, se preferite, con Juventus e Udinese che avanzano piano, con 11 gol fin qui segnati, di cui 9 ieri sera, e dove sta condensato il succo di questa settima giornata, aspettando il derby di questa sera. 11 gol sono record negativo. Quello precedente, 13, risale, ma non moltissimo fa, alla scorsa stagione. Oggi soltanto 2 gol nelle partite della domenica, che a furia di svuotarla di contenuto tra anticipi e posticipi al pomeriggio ci addormentiamo tutti. 2 gol segnati a Novara dal Bologna, dal nuovo Bologna, dal Bologna vecchio del nuovo allenatore Stefano Pioli. Ramirez e Acquafresca, meno male che c'erano loro. Tra poco cominceremo a parlarne con gli ascoltatori. Boris dalla provincia di Milano e Gianni da Parma, i primi due già in linea. 800 24 00 24, numero verde. A proposito di derby della capitale, di cui ovviamente parleremo, Mr. Di Benedetto è arrivato dagli Stati Uniti. È arrivato per il derby con il suo aereo alle 16. Non so quanto resta, so invece, perché l'ho letto nei giorni scorsi, quanto guadagnerà per fare il presidente della Roma, cioè 1 milione di euro più bonus, che sono la scorta, che sono i biglietti per fare avanti e indietro con gli Stati Uniti. Però questo è il suo nuovo impiego a capo di una cordata che evidentemente manda lui stipendiato a prendersi cura delle sorti della Roma. Tanto Giro d'Italia, dicevamo prima di fermarci per il GR, è nato oggi Pier Augusto Stagi. Buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Come sono stati i primi vagiti del Giro? Cosa c'è dentro? I primi vagiti sono buoni, i corridori apparentemente sono tutti molto soddisfatti e contenti, sì, perché è un Giro d'Italia che è finito da loro più umano, con meno trasferimenti, anche se sarà un Giro d'Italia che partirà il 5 di maggio da Herning, dalla Danimarca, 3 giorni in Danimarca, poi si prenderà l'aereo e si andrà a Verona il 5 di maggio, appunto a Verona per la cronosquadra, quindi il Giro d'Italia degli italiani inizierà l'8 di maggio con la cronosquadra di Verona. Poi 15 giorni molto francesi definirei, nel senso 15 giorni con poche difficoltà, molto da Tour de France e temo fortemente un po' di noia e l'ultima settimana invece con i grandi botti, con i tapponi, con l'Alpe di Pampeago, con l'arrivo a Cortina d'Ampezzo, ma soprattutto col passo dello Stelvio e il Mortirolo al penultimo giorno. Io ho qua un ospite, se mi consente, sì. Silvio Martinello, gli chiedo anche a lui, che è voce critico della RAI, della TV di Stato, cosa ne pensa di questo Giro d'Italia. Allora, guarda, sinceramente ho espresso già il mio giudizio anche sul palco durante la presentazione. È un giro che personalmente mi piace, un giro equilibrato, un giro che dà spazio a un po' tutti i corridori che partecipano, che possono sperare di poter conquistare un risultato. È un giro che, come la tradizione, e giustamente, si deciderà in montagna con due tappe molto impegnative, il penultimo e il terzultimo giorno, con arrivo l'ultimo giorno sullo Stelvio dopo aver scalato il Mortirolo. Saranno quelle le tappe principali, e è un giro che mi piace e che dà la giusta attenzione anche alle esigenze degli atleti e dei corridori dal punto di vista del recupero. Come vedi, siamo abbastanza in linea io e Silvio Martinello sulla valutazione complessiva di questo Giro d'Italia. La presentazione qui a Milano, in via Mecenate, c'erano il massimo dei corridori, c'era Alberto Contadora, c'era il campione del mondo in canica Mark Cavendish, Vincenzo Nibali, Ivan Basso, Michele Scarponi, Damiano Cunego, Stefano Gardelli, c'erano un po' tutti. Sì. Però il punto di domanda, l'incognita, è proprio quello di chi verrà a correre, soprattutto degli stranieri, certo, del Giro d'Italia il prossimo anno. Alberto Contador ha detto: il Giro d'Italia è la corsa più bella del mondo, a me piace da morire, l'ho vinto due volte, il pubblico italiano forse è il più competente, però ma io il prossimo anno vado in Francia. E già questo non mi sembra male, no? Tanti complimenti, certo. Detto, scusatemi ma vado di là. Sì. Torushov, ex campione del mondo, ha detto la stessa cosa, i fratelli Schleck probabilmente idem con patate. E il punto di domanda è proprio, certo, che la corsa può essere bella finché vuoi, però se mancano gli attori anche il copione passa in secondo piano, quindi non vorrei che si tornasse agli anni. Non voglio buttare giù il nostro evento, perché comunque è una grandissima corsa. Sì. Secondo me la specificità del Giro d'Italia è che la corsa a tappe più dura del mondo, però la prossima edizione, quella del 2012, ha perso questa sua matrice, certo. Non è più così dura come era in passato, mi va bene togliere i trasferimenti, però qua ci sono delle tappe, soprattutto ripeto, le prime due settimane ho paura che saranno tappe tipo le partite di oggi pomeriggio, proprio classiche da Tour de France. Il Tour non può fare il giro perché non ha le strade e le montagne dell'Italia. Secondo me non è un bel segnale che il Giro si posizioni faccia il verso al Tour de France francese. Hai ragione, ma bisogna mantenere la nostra specificità con un Giro che è storicamente, come ha detto Contador, la corsa più dura però del mondo. Se vuoi io ti posso sentire la voce, il commento di Mauro Vegni, che è il direttore del Giro d'Italia. Sì. Sentiamo, ma aspetta un secondo che mi avvicino e chiedo Venia. Ecco qua, Mauro Vegni per Radio 24. Questo giro disegnato, il tuo primo Giro d'Italia, forse le prime due settimane un pochino leggerine, l'ultima settimana invece è veramente molto molto difficile. No, non la penso così, scusami, io ti dico che già rientrando in Italia la cronasquadra sai benissimo che è impegnativa per se stessa. La tappa che arriva a Porto Sant'Elpidio, vi prego di vederla con molta attenzione, perché è una tappa difficile, non ha mai un momento, contrariamente a quello che uno può pensare che sia una tappa per velocisti, non lo è. È una tappa con molte insidie, all'interno ai due tratti di sterrato con pendenze veramente importanti sullo sterrato, e ha una salita proprio a pochi chilometri dall'arrivo. Quindi sarà una tappa impegnativa. Le prime tappe di sabato e domenica con i due arrivi, chiamiamoli in salita, non sono delle grandissime salite, delle grandissime pendenze, ma tu mi insegni che la prima settimana, la prima salita, se non sei a posto con le gambe rischi quantomeno di pensare di non vincere più il giro, quindi non credo. La seconda parte, la seconda settimana, c'è un arrivo ad Assisi impegnativo, c'è un arrivo comunque a Sestri di un certo tipo, e poi arriviamo con le due salite del fine settimana, che sono appunto quelle del Cervinia e quelle del piano dei Resinelli. Non le ritengo sicuramente più umano perché dà la possibilità a tutti quanti di esserci fino all'ultima settimana. Ecco, un giro più umano, così lo definisce Mauro Vegni. Puoi anticiparci perlomeno al di là dei Ivan Basso, Michele Scarponi e Damiano Cunego, che hanno già detto noi ci saremo, gli stranieri che in linea di massima potrebbero partecipare a questo Giro d'Italia 2012? Ma io ritengo che dovremo a mio modo di vedere abbiamo costruito un giro adatto a tutti e cercheremo di portare sicuramente alla partenza dei giovani ragazzi che in questo momento stanno facendo bene, perché poi lo sapete meglio di me, i corridori che a oggi si contendono il gota del ciclismo sono 3 o 4, Evans, Contador e lo Sleck, che ancora devono, i fratelli Sleck che ancora comunque devono dimostrare. Poi ci sono una fascia di altri atleti che hanno fatto bene nel passato, lo stesso Menchov che ha vinto il Giro del Centenario, quindi, però poi c'è tutto un mondo di giovani promesse che vengono fuori. Mi piacerebbe portare un Gilbert, mi piacerebbe portare un Wolfgang, mi piacerebbe portare qualche atleta insomma di valore internazionale, giovane, che però possa essere una promessa per il futuro, al di là di vedere in questi periodi, anzi con la nuova ristrutturazione che le squadre stanno facendo in questo periodo, la Leopard, la fusione Leopard e Bruinel, cioè c'è da capire un po' tante cose, ma io soprattutto punto su questi giovani. Quindi va bene, abbiamo capito il quadro del Giro d'Italia. Un giro più umano e un giro aperto ai giovani. Aperto. Questo è il messaggio che arrivo. Io ringrazio Pier Augusto Stagi, abbiamo avuto un'ampia pagina molto dettagliata, che a me è piaciuta molto peraltro, di presentazione di questo Giro d'Italia. Subito dopo il traffico ci buttiamo sul calcio, vedo che sta parlando Conte, Boris, Gianni, due ascoltatori già in linea, e parleranno subito. 800 24 00 24, numero verde, a dopo. Nuova Volkswagen Passat Variant, con leasing finanziario a 280 euro al mese, TAEG 4,90. Vi presenta Strade in diretta. Traffico a rilento a causa di un incidente sul tratto veneto della A4 tra Verona Est e Verona Sud in direzione Brescia. Sulla 15 della Cisa code per lavori in direzione Parma tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e Aulla e anche tra Fornovo e l'innesto per l'autostrada del Sole. Code per lavori 3 km anche sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Circolazione scorrevole per il momento sul resto dei percorsi e tutto, torniamo tra circa mezz'ora. A tempo di sport. Buonasera Boris, provincia di Milano, dunque. Eccoci. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Niente, riguardo al discorso sulla vittoria del campionato, sono chi perfettamente d'accordo con lei. Chi se lo prende il campionato? Del voto di potere in cima al campionato. E rispetto ai campionati degli altri stati vedo proprio anche una pochezza di gioco, quindi non lo so, penso che alla fine la vittoria del campionato andrà a chi ha più fame. In questo momento individuo come Juventus, Napoli e Udinese, perché hanno più fame delle altre squadre. Sì, Juventus, Napoli e Udinese avranno anche fame, però il Napoli stecca col Parma, l'Udinese non va oltre lo 0-0, l'Udinese a Bergamo con l'Atalanta, però io in tutta franchezza e con tutta l'ammirazione che ho per l'Udinese, io all'Udinese campione d'Italia non ci credo, quindi scusatemi, non ci credo, perché speranza anche mia, però all'Udinese campione d'Italia io francamente non ci credo. Poi possiamo star qui con le masturbazioni mentali infinite verso il basso, verso l'alto, il livellamento di questo campionato. Certo, oggi vedi 6 partite con 2 gol dentro e dici questo pomeriggio potevo fare dell'altro, però l'incertezza comunque secondo me è qualcosa di interessante e di positivo. Poi io continuo a pensare che il Napoli avrebbe la sua grande occasione, però è distratto da questo sogno europeo. Ieri sera ne abbiamo avuto l'ennesima prova, l'altra sconfitta era arrivata con il Chievo a Verona a cavallo delle due partite che stanno scrivendo la storia di questo dell'Euro Napoli, cioè lo 0-0 di Manchester, e poi dopo la sconfitta con il Chievo il mercoledì, dopo il pareggio stentato e brutto contro la Fiorentina in casa la domenica successiva, il sabato successivo, ecco che il Napoli asfalta il Villarreal e si costruisce la sua strada europea. Vedo parlare Conte, poi andiamo da Gianni. Conte oggi con Sky. Sono parenti molto stretti, no? Nel senso che la Juventus comunque ha trovato un po' di difficoltà ad averla meglio di una grande aggressività da parte degli avversari. Ma diciamo che secondo me a Catania abbiamo sbagliato il primo tempo, l'approccio, l'atteggiamento non è piaciuto, mentre abbiamo fatto molto bene nel secondo tempo. Oggi secondo me la squadra invece, l'approccio, l'atteggiamento è stato sempre giusto. Abbiamo fatto la partita, diciamo che tutte le squadre che comunque vogliono fare la partita si trovano più in difficoltà quando trovi 10-11 giocatori sotto la linea della palla. Questo l'ha dimostrato anche il Napoli ieri in Napoli-Parma, quando trovi 8-10 giocatori sotto linea la palla, per chiunque diventa molto molto difficile trovare degli spazi. È inevitabile che poi, se riesci a trovare il gol, la partita cambia, perché la squadra avversaria deve comunque fare qualcosa in più. Oggi loro sono stati bravi, ci hanno chiuso tutti gli spazi, noi siamo stati bravi a non concedere assolutamente nessuna ripartenza. Abbiamo avuto le nostre occasioni, si tratta anche a volte di un pizzico di fortuna, che o il tiro di Marchisio che è finta di un niente, il palo di Del Piero, delle situazioni comunque, se riuscivamo a sbloccare sicuramente avremmo visto un'altra partita. Conte, e quando ci sono 8-10 uomini sotto la linea della palla, che succede se vuoi vincere lo scudetto? Che arriva un campione e ti risolve la partita, la vinci 1-0 e di punti non ne hai 12 ma 14 e comincia ad essere un solco interessante. Gianni da Parma, buonasera. Buonasera, mi fa piacere entrare dopo Conte per il semplice fatto che durante la partita che ho visto in TV ero un po' arrabbiato, essendo juventino, per il fatto che in casa, stadio, grande euforia eccetera, la Juve fuori casa è la Juve, cioè la Juve deve comandare ovunque vado, cercare di comandare, poi a volte si può anche non riuscire. Questa smania di avere tutte queste belle ali alte che fanno i cross e non avere un centrale, perché Vucinic è sempre stato, se mi sbaglio qualcuno mi può contraddire, una seconda punta, sì, comunque non una punta centrale. Entra Del Piero, mi chiedo, Matri, che aveva una percentuale di realizzazione, Gazzetta dello Sport lo diceva, di un gol ogni due partite, è sparito dai monitor, e Del Piero deve andare a saltare di testa e prendere il palo. Cioè, sì, sì, lunga vita Del Piero, ma non è il suo ruolo. No, certo. E come mai c'è questa dicotomia, come posso dire, tra la Juve in trasferta, che dobbiamo andare a raccogliere un punticino a Verona, poi vabbè, perché il palo, già, il palo. Io credo che l'emotività la fame di questa Juventus ha insieme al suo allenatore in casa possa fare la differenza. Quando va in trasferta, in partite così chiuse, la differenza la fa il colpo del campione che la sblocca. La Juventus, quali super campionissime ha in questo momento? Beh, Vucinic continua a considerarlo un grande giocatore. Del Piero, non so cosa potrà dare ancora alla Juventus. Oggi è entrato, colpito il palo di testa appunto, ed è stato l'unico squillo, guarda caso, di un giocatore di grande classe. È evidente che se giochi ammassando molte ali, come dice lei, servirebbe anche un grande colpitore di testa, quindi magari qualche un po' di confusione di idee esiste in questo momento alla Juventus. Massimo, la Spezia. Salve, io mi allaccio alla discussione di chi mi ha preceduto rispetto appunto al discorso dei campioni e dei non campioni, nel senso che lancio anche una provocazione. Se invece l'atteggiamento adesso c'è, secondo me, rispetto all'altro anno, se invece di ingaggiare gli avvocati per la questione annosa dello scudetto 2006-2007, sì, e prendesse il modello udinese, che non è un caso, è prima in classifica, e si prendesse dei giovani forti, ma sono riusciti a prenderlo, e quindi con un discorso di scouting ben fatto, e invece di Giaccherini chi trovasse un nuovo Ribéry, allora la questione cambia. Ho capito, Massimo, però ne penso che per replicare il modello udinese è inutile che stiamo lì a dire, ci vuole molto tempo, ci vuole molto molto lavoro, ci vuole una macchina organizzativa che non si inventa da un giorno all'altro, quindi al di là del discorso degli avvocati, non è così semplice reclutare in giro per il mondo giovani talenti come fa l'Udinese. Non credo che la Juventus possa replicare questo modello da un giorno all'altro, insomma, questo no. Ma coinvolgo una discussione anche Paolo Condò, penna illustre della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio, buona domenica, ciao. Ciao a te, grazie. Vogliono un modello udinese per la Juventus, no? Il modello udinese non si inventa. A parte questa storia dei modelli, modello udinese, modello Barcellona, a me è un po' stufato, se devo dire la verità. Sì, diciamo che una buona amministrazione può essere fatta in molte maniere, non è necessario per forza di cose adeguarsi a uno dei modelli esistenti. Per quanto riguarda specificamente la Juventus, trovo che in questa stagione abbia acquistato bene e venduto male. Sì. Nel senso che, ricordo che un maestro delle contrattazioni come Allodi, tempo fa, in un'intervista disse: il vero dirigente bravo, il vero direttore sportivo bravo, si vede quando vende, non quando compra. E certo, la Juventus paga invece 20 milioni per Amauri, Toni e Iaquinta. Esattamente, ci sono dei giocatori, tra l'altro anche fior di giocatori, perlomeno quanto a curriculum, che non solo non sono stati fin qui utilizzati, ma probabilmente non verranno mai utilizzati in questa stagione, perché un organico che sarebbe largo anche con la Champions League, privo totalmente di Coppe Europee, soltanto con la Coppa Italia, che vale quello che vale, naturalmente è esagerato. È sì. Esagerato e figlio non soltanto della difficoltà di vendere, perché poi io capisco che per una questione di ingaggio e di prestigio un giocatore che arriva alla Juventus poi sia difficile schiodarlo da quella, anche da quella tribuna. Però per esempio il caso di Luca Toni, che venne acquistato proprio a gennaio di quest'anno con l'acqua alla gola, che sembrava che se non arrivasse lui la Juventus sarebbe andata in Serie B, e poi dopo due settimane venne preso Matri, no? Sì, quindi sì. Insomma un acquisto assolutamente isterico, sì. Quello di Toni, e adesso tu a livello di ingaggio lo paghi naturalmente. Acquisti d'emergenza come i decreti che in Italia fioriscono. Sì. Senti Paolo, ma questo vuoto di potere in piena regola, perché tale è, chi va a chiuderlo? Il Milan, mi scrive un ascoltatore, al completo non ha rivali in Italia, bastato Robinho, la squadra è cambiata, mi sembra un po' semplicistica come lettura. Il Milan può ancora coprirlo perché è la squadra più organizzata, quella che ha maggiori possibilità, e tu oggi lo sottolinei scrivendo destini ora separati per le milanesi dalla prima pagina della Gazzetta. La Juventus non ha ancora la stoffa, il Napoli, che secondo me ha la grande occasione, rischia di rimanere prigioniero del sogno che si è costruito, quello europeo, e le due sconfitte di Verona e quella di ieri con il Parma sembrano quasi dimostrarlo. Bell'Inter io non la considero più, in tutta onestà. Allora, ti devo dire che anch'io, dopo la sconfitta di ieri Catania, ho tolto l'Inter dal lotto delle iscritte, perlomeno lo scudetto, e non sarà il fatto che oggi il suo distacco è salito a 8 anziché a 10 punti, quindi in un certo senso è stata un'ottima domenica per l'Inter, non sarà questa a farmi cambiare idea. E penso che il Milan sia la squadra più attrezzata, perché anche se non ha preso dei fuoriclasse, ha comunque acquistato quest'anno alcuni ricambi di centrocampo di buon livello come Aquilani e Nocerino, che torneranno molto utili. Entrambe le milanesi hanno problemi di senescenza estremamente avanzata della rosa, però qualche cosa, mentre l'Inter ha acquistato dei giovani che sono tutti da scoprire in prospettiva, che magari diventeranno anche bravi, perché a me Alvarez non dispiace completamente, sarei curioso di vedere, sono curioso di vederlo sulla distanza, diciamo, di due stagioni. E Coutinho, tutti i miei amici brasiliani continuano a dirmi: guarda, questo era un fenomeno assoluto a livello giovanile. I fenomeni assoluti magari pagano l'inserimento, però poi tornano buoni. Però al di là di questi giocatori che sono stati acquistati come gli abiti che si comprano per i bambini un po' troppo in crescere, no? Il Milan invece non ha commesso questo errore, o perlomeno si è cautelato con giocatori di rendimento buono, non pazzesco, ma buono, come Aquilani e Nocerino, e poi ha avuto una sacrosanta pazienza, per esempio, con un ragazzo come Abate, che due anni fa era francamente, se mi perdoni il termine un po' spinto, una pippa, assolutamente. Sì. Ecco, e invece in quel ruolo, certamente, nel tempo è diventato, assieme a Maggio, il miglior terzino destro italiano. Sono d'accordo. E lì sono stati bravi al Milan, hanno avuto la pazienza di aspettare, che contrariamente a quello che dice sempre Galliani, che Galliani dice sempre a San Siro non si possono presentare giocatori non perfettamente maturi e così via, invece in questo caso è stato presentato, è stato sostenuto, e alla fine il Milan si è trovato ad avere un eccellente terzino destro, non ti dico a gratis, però quasi. Sì, beh, ecco. Il giocatore non eccessivamente maturo, però lo puoi presentare, proporre e difendere in una squadra che funziona. E torni al discorso di Coutinho e di Alvarez, è molto difficile per i giovani calarsi nella realtà di una squadra in crisi, o meglio, quella dell'Inter a me sembra la normale storia della fine di un ciclo, e tutte le grandi squadre si sono passate, Milan compreso, che richiama Capello e poi richiama Sacchi, e qualunque cosa succede ti si rivolta contro. Io mi ricordo una storia sportiva esemplare, che è quella dei Chicago Bulls di Michael Jordan. Certo. Quando c'era Jordan, c'era Scottie Pippen, c'era Rodman, tutti i giocatori che invecchiarono assieme, vinsero fino praticamente all'ultima opportunità, ma poi la società era consapevole del fatto che sfruttare quei giocatori fino all'ultima opportunità, anziché, tu conosci il sistema del salary cap, anziché magari venderne uno nella fase finale della carriera per investire su alcuni giovani, Chicago adesso è tornato ad avere una squadra da playoff importanti, e sono passati 10-15 anni da quella volta. Ecco, quello che ha fatto l'Inter con la generazione dei Zanetti, dei Cambiasso, dei Lucio, dei Cordoba, dei Samuel, degli Stankovic, è più o meno la stessa cosa. Li ha portati a costruzione. Però qui, voglio dire, qui entra in ballo sia un discorso economico che anche un discorso romantico, che certo, deve avere un ruolo dentro al nostro mondo, perché il nostro mondo gioca sulle emozioni. Paolo, l'Inter è finita quella notte a Madrid con Mourinho che va con la macchina del Real. La grande Inter è finita quella notte a Madrid, però ci voleva un pelo sullo stomaco notevole, probabilmente certo, eccessivo, per certo, vendere certo, il giorno dopo Maicon, Milito, esatto, Cambiasso, esatto, e tutti questi giocatori qui, e quindi in un certo senso paradossalmente è l'errore più giustificabile di Massimo Moratti. Assolutamente sì, è il così il giorno da leoni vissuto e poi pagato, ecco. Paolo, io ti ringrazio molto. Grazie a te. Noi. Grazie. È stato un piacere. Ciao. Grazie. Grazie a Paolo Condò della Gazzetta dello Sport. Ci fermiamo per una breve pausa e poi mi piacerebbe parlare anche con voi. 800 24 00 24, numero verde. Messaggi 349 238 6666. Poi naturalmente ci trovate anche su Facebook e Twitter, quindi tutti i canali di comunicazione sono aperti da ore fino alle 19. Se oggi il vostro patrimonio si presenta così, è ora di fargli scoprire l'approccio patrimoine di Carmignac Gestion, dedicato ai paesi emergenti. Perché in futuro un patrimonio solido dovrà essere sempre così. Nuovo fondo Carmignac Emerging Patrimoine. Una gestione 100% emergente, 100% patrimoniale. Carmignac Gestion. Pionieri nella crescita. Carmignac.it o rivolgetevi al vostro consulente finanziario di fiducia. Il capitale di questo ICVM non è garantito. Gli eccessi temono il tempo perché li consuma. L'eleganza ama il tempo perché la rende eterna. Il vero stile non ama gli eccessi, come la gamma Lancia Musa. Solo ad ottobre, tua da 13.500 euro, con clima, radio CD, electronic stability control e cerchi in lega. Lancia Musa, la City Limousine. Scoprila sabato 15 e domenica 16. Offerta valida fino al 31 ottobre con il contributo Lancia e dei concessionari con usato anche da rottamare. Permette Infogroup, Gruppo De Pasquale. Capitale umano? Interinale? Flessibilità organizzativa? Infogroup.eu. Formazione e fondi interprofessionali? Infogroup.eu. In maggiori informazioni? Infogroup.eu. Su una striscia di terra nell'Atlantico vive una tribù molto ingegnosa. Sono circa 1.600.000 persone che, dopo aver occupato la terra, hanno cominciato ad abitare anche i cieli della loro piccola isola, costruendo torri di 380 metri di altezza. Gli abitanti di Manhattan le chiamano grattacieli. I piccoli spazi richiedono grandi idee. Audi Q3, progettata su nuove aspettative. Scopritela il 22 e 23 ottobre negli showroom Audi. È il vostro capitano che parla. Cioccolato svizzero su ogni volo? Non sono magnifici i cliché? Con Swiss International Airlines non solo il cioccolato è tipicamente svizzero, anche l'ospitalità, il servizio accurato, l'efficienza del transito a Zurigo e i prezzi convenienti. Ad esempio Shanghai, a partire da 529 euro andata e ritorno da Milano, tasse e supplemento carburante inclusi. Tariffa soggetta a restrizioni e dalla validità limitata. Condizioni complete sul sito swiss.com. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Avremo inizio settimana con una prevalenza di sole su gran parte dell'Italia. Infatti lunedì vedrà qualche annuvolamento comunque innocuo alternato alle schiarite, che potrà interessare solo il Lazio, la Sardegna e il settore ionico. I venti saranno in attenuazione e soffieranno ancora moderati da nord-est solo sulla Puglia e sullo Ionio, in Calabria e Sicilia. Le temperature massime saranno in generale rialzo, specie sull'Adriatico e al sud. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E con questo è tutto. Pubblicità. Anche nei momenti più difficili c'è un porto sicuro per i tuoi risparmi. Conto deposito di Che Banca. ti dà il 4% fino al 15 dicembre 2011 sulle somme depositate per un anno. L'importo degli interessi è in anticipo e la tassa è già al 20% anziché al 27% per tutti i vincoli in scadenza dopo il 31 dicembre 2011. Fogli informativi su chebanca.it. Più tasso, meno tasse. Chebanca, gruppo Mediobanca. In data odierna veniva ritrovato furgone incustodito contenente pacchi 4, spazio, materassi 2, spazio, peluche gigante 1, spazio, armadio 3 ante 1, spazio, computer 3, spazio, cabina doccia 1. Nissan NV200. Tra tante cose, ancora tanto spazio. Scegli Nissan NV200, il compatto che ti sorprende con un carico di 2 euro pallet in 4,2 metri cubi di spazio. Tuo a tasso zero in 4 anni. Offerta valida fino al 31 ottobre. TAEG 2,17%. Spazio. Pronto a un'altra giornata di lavoro? Pronto, signore! Progetto criptato? Pronto, signore! Notebook con dati protetti? Scusi, signore! Procurati un notebook Fujitsu! Subito, signore! Più sicurezza ai dati con Fujitsu e Intel. Nuovi Lifebook Fujitsu con processore Intel Core i5 V Pro. Nuovi Lifebook Fujitsu con Advanced Theft Protection, letture impronte digitali e tanta sicurezza in più. Cambiaportatile.it 800-466-820. Vi abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 533 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Credit Reform è la prima scelta di banche, compagnie d'assicurazione e grandi aziende. 800-425-325 o creditreform.it. Tempo di sport. Fate sentire la vostra voce. 800240024 per intervenire in diretta. Messaggi 349-238-6666. Classifica, la leggo tutta, non l'ho ancora fatto. Juventus e Udinese 12 punti, Cagliari 11. Magnifico il Cagliari, che la cui classifica però poteva anche essere addirittura straordinaria. Avesse vinto oggi con il Siena, sarebbe stato primo da solo. Napoli e Palermo 10 punti, Chievo, Parma, Catania 9, Roma, Fiorentina, Lazio, Milan, Genoa 8, quindi Roma e Lazio si trovano alla stessa altezza e si affrontano questa sera, come sapete, nel derby. Siena 6, Atalanta, Novara 5, Inter, Bologna, Lecce 4 punti, Cesena 2. Francesco dalla provincia di Pesaro, poi Massimiliano da Bologna. Buongiorno Francesco, buonasera. Buonasera a tutti, io è la seconda volta che chiamo. Sì. Sono contento di parlare sempre con voi. Io volevo fare un piccolo appunto proprio sulla Juve, sono juventino, sulla constatazione che già prima il ragazzo mi sembra che ha centrato un po' il problema. Io credo che sono tre quest'anno le partite che la Juventus non ha giocato bene e secondo non ha giocato bene, perché quest'anno l'approccio e tutto c'è, un po' di gioco ce l'abbiamo. E un po', diciamo così, il nostro allenatore, che è juventino quanto vuoi, quello che vuoi, però sono tre partite che non, secondo me, come Catania non l'ha letta benissimo, sì, oppure con Bologna, col Bologna non credo che l'abbia proprio letta benissimo e oggi non credo che l'abbia proprio letta benissimo. La squadra c'è, la sua impronta si vede, però non puoi, oggi era la classica partita da ariete, noi ce l'abbiamo, sì, una ariete, si chiama Matri, sì. Ne avete uno e ne pagate quattro, Bravissimo, esattamente, è proprio quello il discorso. E oggi era la classica partita da, insomma, è ancora un po' la perdiamo, Sì, e nonostante tutto ancora un po' la perdiamo, perché è corretto quanto ha detto, ma Francesco, è corretto quanto ha detto l'ascoltatore di prima, se non ricordo male Gianni, cioè che senso ha ammassare e pretendere molte ali, molti esterni che vadano sul fondo a crossare se non hai uno in grado di trasformare in pericolo quei palloni che arrivano o dovrebbero arrivare dalle fasce. Questa è certamente una considerazione elementare quasi. Sentiamo insieme Francesco e Massimiliano, sentiamo insieme invece Di Carlo con Sky, che ha affermato oggi la Juventus. Io qua, insomma, se l'avesse dato io non avrei trovato niente. Stiamo di discutendo di un rigore presunto tale provocato da Chiellini. Non trovo scandaloso che non l'abbia dato, ecco, però sì, io devo... Posso intervenire un secondo? No, direi di no. Secondo me quello su Sergio Pellissier, probabilmente è un rigore che giustamente magari si può anche non dare perché non è un fallo importante. Secondo me la trattenuta è in area di rigore, perché noi a Cesena una trattenuta così e ci hanno dato rigore contro, ma questo può succedere che l'arbitro delle volte dà e non dà. Vabbè, ma allora ha sbagliato quello di Cesena. No, lo so se ha sbagliato quello di Cesena. Quello di Cesena ha valutato giustamente che era rigore. Vabbè, sono storie che personalmente mi annoiano un po', non so Francesco. Che mi sembra stesse probabilmente quello su Pellissier poteva anche starci. Poteva, se se lo dava non era scandaloso, mi quello sarei incavolato come una bestia. Quello di Chiellini su quello di Chiellini su Pellissier, giusto? Esatto, quello io ero convinto che l'arbitro fischiasse e non sbagliava, perché poi noi a rivederlo, poi rivederlo come ieri il rigore dell'Inter. No, ma, ha detto bene Ranieri, è stato molto, molto onesto, quel rigore a velocità normale lo dai tutta la vita, poi vedi tre replay e dici ok, non l'ha toccato, però lanciato solo davanti alla porta, anzi la prima cosa che ho pensato io, fortunata l'Inter che non è stata lasciata in 10 questa volta, perché poteva poi, quando torno a ripetere, l'Inter è alla normale storia della fine di un ciclo, e quando è così lasciamo stare i dossier, tutte queste cose qui, è normale che il vento sia sempre contrario in queste situazioni. Nel calcio succede questo e lo sappiamo benissimo, per nessuna ragione, ma è così, insomma. Esatto. Grazie Francesco, torna a trovarci, alla prossima. Andiamo non distante, a Bologna. Massimiliano, buonasera. Buonasera, ascolti, mi dispiace per lei che oggi pomeriggio è assediata dai tifosi juventini. Qual è il problema? Non vedo alcun problema. Io, a me piace molto chiacchierare con gli ascoltatori a schema totalmente libero, perché il bello della radio è questo: happening assoluto. Magari adesso uno chiama e vuole parlare del motomondiale, benissimo, o del Giro d'Italia, benissimo, o dell'Inter, o del Milan, o del Lecce. Poi mi dicono, ma perché non parla mai di questo? Fatelo voi. Siete qui, avete il numero, avete lo spazio radiofonico, e io sono ben contento, insomma. Io apprezzo moltissimo la sua giornata che dedica al basket a fine settimana, anche se la sponda a cui appartengo io del tifo di Bologna purtroppo non viene parlata molto spesso. Non vedo l'ora che torni la sua sponda, io sinceramente, non vedo l'ora che torni al piano di sopra, perché ce n'è bisogno. No, comunque tornando alla partita di oggi, io volevo solo dire una cosa che di tutti gli interventi di prima probabilmente non è stato detto. Innanzitutto voglio farle una piccola correzione a quello che ha detto lei nell'intervento di prima: la Juventus purtroppo non ne paga 4 degli attaccanti, ma ben 7 ne paga di contratti di attaccanti. A chi si riferisce? Tutti gli attaccanti. Attenzione, io parlavo di prime punte. Prime punte sono Matri, Iaquinta, Toni, Amauri, sono 4, e poi vabbè ci sono gli altri. Però ne paga 4 per averne arruolato uno, perché gli altri non li usa perché non li usa. Ne paga 20 milioni per quei 3. Paga 20, 10 netti, che sono 20. La cosa che ha dell'incredibile è che la frenesia di acquistare della Juventus, che diceva nell'intervento di prima quel giornalista, io voglio solo dire questo numero, poi ascolto la sua risposta. La Juventus ha 7 attaccanti, 5 laterali offensivi e 0-0 terzini sinistri, perché Chiellini è stato rimesso lì, Grosso un fuori rosa e De Ceglie un panchinaro. Quindi ha 0 terzini sinistri, quando l'anno scorso anche un bambino piccolo aveva visto che prima di Pirlo, che è un signor acquisto, ma serviva assolutamente comprare 2 terzini, uno destro e uno sinistro. Sì, lei ha ragione, però io dico anche che quella è merce molto rara, perché l'Inter quest'anno ci ha provato con Jonathan, che non mi sembra un fenomeno. Poi stiamo a dire Abate e Maggio, ma chi sono? Non ce n'è tantissimi in giro di giocatori in quel ruolo, quindi non è semplice. E detto questo, il mercato della Juventus, che sia stato molto costoso e molto sclerotico, non solo quest'anno e non solo quest'anno e l'anno scorso, questo lo sappiamo. Non riesco a capire, secondo voi, che cosa può mancare ancora? Secondo me mancano 3 giocatori di livello internazionale, uno per reparto almeno, per poter parlare con ragione, a ragion veduta, di una squadra da scudetto. Ugo da Roma, buonasera. Buonasera. Buonasera, dica. Senta, io non ho sentito bene l'intervento di Paolo Condò sull'Inter, però... Non credo che Moratti sia proprio un presidente che ha sempre sbagliato, che sbaglia in continuazione. No, non mi pare. Ma non è stato detto questo, mi pare. A cosa si riferisce? Io ho sentito la fine dell'intervento. No, allora glielo riepilogo molto rapidamente. Si è detto che l'Inter, non so se lei condivide, che l'Inter come... cioè la grande Inter di questo ciclo è finita la notte di Madrid, cosa che io ho detto molte volte e di cui sono profondamente convinto. È finita quella notte con Mourinho, che era stato il catalizzatore finale, che va via con la macchina del Real, con l'Inter che torna senza allenatore ma con la Champions League, con Milito che a bordo campo dice voglio andare via, con giocatori comunque avanti con gli anni e i nomi li conosce benissimo. Dunque il ciclo dell'Inter è probabilmente finito lì. Moratti non si è sentito di smontare su due piedi la squadra che aveva riportato la Coppa dei Campioni a Milano dopo tutto quel tempo. Quando sarebbe stato una manovra, come dire, proiettata nel futuro, smontare lì l'Inter, via Mourinho, via i senatori, via chi vuole andare, ricostruiamo da capo. Non se l'è sentita, è stato probabilmente un errore letta col senno di poi, però un errore scusabile, perché in questo gioco entravano in ballo anche i sentimenti, insomma. Sì, questo si d'accordo. È detto. Io però, a proposito di quest'anno, io non credo che alcuni episodi non siano determinanti, anche se sembrerebbe piangersi addosso. Però effettivamente la partita col Napoli è emblematica in questo senso. Sì, la partita col Napoli è emblematica. Tra l'altro ieri Mazzari mi ha fatto morire da ridere quando si è lamentato un po' degli arbitri. Sì, l'ho letto stamattina. Io poi glielo faccio anche risentire, perché abbiamo queste dichiarazioni. Insomma, torno a ripetere, è la normale storia della fine di un ciclo, dove tutto ti finisce contro, ogni cosa che fai non funziona, è sbagliata, compresi gli errori arbitrali. Però lasci stare la partita con il Napoli, l'avvio di stagione di quest'Inter, a prescindere dall'influenza del discorso arbitrale, è quello di una squadra che quest'anno non potrà lottare per lo scudetto, è quello di una squadra che ha finito il suo corso e che dovrà ripartire in un altro modo. Grazie Ugo, ci fermiamo per il traffico, poi torniamo con tutti gli interventi che volete. 800 24 00 24, numero verde. Che fine ha fatto Quagliarella? Domanda Enzo da Milano. Sta recuperando dal grave infortunio che ben conoscete e ancora pare non sia al 100%. E penso non ci siano dubbi in questa domenica così povera di gol, non ci siano dubbi sul fatto che l'impresa vera di questo weekend l'abbia scritta non il Catania ma il Parma a Napoli, e quindi è l'occasione per congratularsi con Franco Colomba. Buonasera mister. Buonasera a voi. Grandissimo Parma, secondo lei il Napoli ha però sofferto l'attesa della Coppa oppure no? Non si può dire, però indubbiamente sapere che qualche giorno dopo c'è un altro impegno può darsi che abbia inciso da questo. Come ha pensato, come ha preparato la partita? Cioè il Napoli si ferma come? Io leggevo oggi Mario Sconcerti che scrive: il Napoli è una squadra che o gioca benissimo e costruisce dei grandi gol, o sulle partite un po' più bloccate fa fatica. Ma questo credo che sia un problema un po'. Qualche problema di linea invece. Proviamo a richiamare il mister, perché così non si può. Fabrizio, provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, giusto per cambiare un po' l'argomento, sì, a proposito della Coppa del Mondo di rugby, sì, oggi abbiamo visto la Nuova Zelanda battere l'Australia, e ieri la Francia sostanzialmente ha battuto il Galles. Sì. Volevo chiedere una sua valutazione in merito a questa finale, un pochino... non era del tutto prevista, ecco, perché in realtà secondo me la Francia Nuova Zelanda, non era... sì, la Francia no, però la Francia è finita, ha vinto quella grande partita contro l'Inghilterra in cui partiva da sfavorita e si è costruita così le sue fortune, insomma. Ma dovremmo parlarne più tardi con Giacomo Bagnasco, abbiamo appuntamento telefonico, dunque torneremo su questa finale che si è disegnata. Purtroppo non è possibile ripristinare il collegamento con Franco Colomba, allenatore del Parma, almeno per il momento. Proveremo più tardi, perché insomma l'allenatore che ieri ha fatto l'impresa era, insomma, mi sarebbe piaciuto ascoltarlo fino in fondo. Dunque Fabrizio, la risposta è questa: gli All Blacks erano attesi a questa finale, è chiaro, sono stati bravissimi a giocare tutto il mondiale con la montagna della pressione sulle spalle, adesso si ritrovano di fronte il loro passato, cioè l'unica finale che hanno vinto, quella di ormai molti anni fa, nella prima edizione dei mondiali giocarono proprio contro la Francia. Vediamo se il finale del film sarà in questo caso diverso. Sergio da Cremona, buonasera. Buonasera a lei. Dica. Scusi, la disturbo. No, non mi disturba per niente, guardi. Siccome sono convinto, come ha detto lei, che il ciclo dell'Inter sia finito, volevo cambiare campo e andare sul motociclismo. Prego. Valentino Rossi, secondo lei, è la fine di un ciclo o è la moto che non va? Guardi, tutte e due le cose. Secondo me, caro Sergio, tutte e due le cose. Cioè, non vogliamo accettarlo, non ci piace questa verità molto amara, non ci piace, però ho l'impressione che Valentino Rossi sia... anche come motivazioni alla fine di questa straordinaria carriera. E va bene, va bene che insomma, i cicli non solo nel calcio finiscono, anche per ragioni anagrafiche. Io credo che Valentino Rossi sia alla fine della carriera. Ciò che mi fa male personalmente è vedere un pilota così immenso trascinarsi come ha fatto in questa stagione, senza motivazioni. Avete sentito anche prima Roberto Ungaro, in prova di motivazione non ne ha più e si vede. Quando c'è la corsa e col sangue agli occhi qualcosa riesce, tenta ancora di fare ma non ci riesce. È evidente che quella moto per lui non è adatta, ma non è mai stata adatta per nessuno se non per Casey Stoner, l'unico che è riuscito a domarla. L'anno prossimo la Ducati farà questo estremo tentativo di cucire una moto diversa e inedita per il marchio emiliano, addosso alle caratteristiche di questo grande campione, cioè una moto convenzionale con un telaio alla giapponese, non più col motore portante, eccetera eccetera eccetera. Non so se questo esperimento funzionerà, perché si tratta di inventare tutto ex novo con caratteristiche che non sono proprio della Ducati, di fare una moto diversa, e non ci sarà, come previsto dal regolamento, il tempo per mettere a punto questa moto. Però torno a dire, a me fa male, credo a tutti gli sportivi italiani, credo a tutti gli appassionati di motociclismo del mondo, fa male vedere Valentino Rossi trascinarsi in coda al gruppo, come d'altra parte a me dà abbastanza fastidio vedere Michael Schumacher che prova a portare a casa magari la pagnotta di un sesto posto, insomma, o di un decimo posto. Nicola da Treviso, buonasera. Nicola? Pronto, mi sente? Boh, non lo so, proviamo. Ecco, senta, io volevo dirla, cioè sono intervenuto per dire una cosa importante per la formazione del Napoli, per la partita che è stata disputata contro il Parma. Sì. Ecco, io volevo chiedere una cosa: perché il signor Mazzarri insiste con quel modulo, il 3-4-3, quanto poi può variare a seconda della formazione, a seconda dei centrocampisti, al soprannumero di centrocampisti, può fare anche un 3-5-2 per ripiantare un attaccante? Ma le spiego subito, perché quello è il marchio di fabbrica del Napoli, è il marchio di fabbrica di Mazzarri e di questo Napoli, e Mazzarri fa benissimo a non togliere alla squadra alcuna di quelle certezze che ha costruito. Guardi, il Napoli è una squadra, secondo me, quasi da altri tempi, è una squadra molto classica, è una squadra che ha 11 titolari, che ha 3 stelle all'interno di questi 11 titolari, ben riconoscibile con i ruoli e accettate, ha ruoli precisi, ha un modulo preciso, 11 titolari, 3 stelle, un modulo, le riserve che sanno di essere riserve, è una squadra che funziona così, non sarei d'accordo su qualunque cambiamento di questa squadra, nemmeno da un punto di vista tattico. Il Napoli è questo, se ciò possa bastare per vincere lo scudetto non lo so, secondo me quest'anno magari anche sì, però il Napoli adesso sta pagando il grande sogno e la grande emozione della Champions League. Dopo il GR parleremo anche con Daniele da Roma e con tutti gli ascoltatori che vorranno intervenire. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. Tempo di sport. Torniamo insieme ed è un piacere risalutare Mister Franco Colomba. Sperando che sì, i telefoni. Buonasera. Rieccoci, sperando che i telefoni stavolta non facciano scherzi. No, io ero curioso, tornando a prima, di sapere qual è stato il piano partita che lei ha disegnato per fermare il Napoli. Ma no, piani particolari. errori non ce ne sono. Quando affronti una squadra più forte, cerchi di dare il meglio di te, non offrendo, spazi vitali per le loro manovre. Questo credo che sia il pensiero di tutti gli allenatori quando affrontano squadre più titolate. Ecco, quindi abbiamo fatto questo, l'abbiamo fatto bene, con poche sbavature, quindi il risultato ci ha sorriso. Devo dire, siamo stati molto così precisi, chirurgici in due o tre ripartenze, potevamo fare addirittura il terzo. Credo che sia stata una partita ben giocata, con grande carattere, grande volontà, grande sacrificio da parte di tutti. Su questo non c'è dubbio, Giovinco compreso. Se ne parla tantissimo in questo momento di Giovinco, troppo secondo lei? Ma insomma, se l'è meritato, in fin dei conti. Ha fatto il capocannoniere, ha fatto già un paio di assist importanti, ha fatto dei gol, quindi voglio dire, è importante per un giocatore mettersi in mostra. Se lo fa abbinando non soltanto il suo, cercando il rendimento suo, ma anche abbinando la generosità per la squadra, un giocatore si completa. Certo, e non si vedono limiti alla crescita di questo giocatore, sinceramente, che non siano quelli fisici ben noti, però sinceramente vedo un giocatore ancora con grandi margini. Ma è un giocatore che è piccolo ma muscolare, cioè non è il piccolo così gracilino, lui regge il colpo. È ovvio che adesso è nell'occhio di tutti, quindi lo guarderanno con uno spirito diverso, quindi anche per lui può darsi che vengano tempi un po' più difficili, però se lui appunto nei momenti in cui non riesce ad esprimere il suo talento poi si sacrifica per la squadra, va benissimo, certo. Benissimo, perché non è che dipende soltanto dalle sue giocate, la squadra dipende anche dai suoi rientri, dai suoi recuperi. Certo, senta, mi dica la verità, le ha dato fastidio certe lamentele di Mazzarri ieri sera dopo la gara, oppure no? Le trova legittime? Non le ho sentite direttamente, dico la verità, però insomma io credo che in effetti forse sia andato un po' così, con una sconfitta in casa l'abbia patita e quindi sul momento ha pensato, o nella tensione del dopo gara ha pensato che certi falli potessero essere così falli gravi o importanti, invece io ritengo che siano stati falli normali di gioco, come ne hanno fatti loro, abbiamo fatti anche noi, insomma. Non siamo entrati dentro dicendo certo. Facciamo il fallo sistematico, perché è stata una partita, anzi c'è una differenza di massa muscolare fra le due squadre notevole, quindi siamo proprio sotto questo profilo penalizzati. Le chiedo un'ultima cosa, lei le ha affrontate entrambe con esiti profondamente diversi, ma in questo vuoto di potere che si è creato con l'Inter, che non è difficile pensare, anzi secondo me è impossibile pensare possa recuperare, il Milan, che rimane comunque la squadra più completa, ha un certo ritardo, le ha affrontate tutte e due, Juventus e Napoli possono ambire in questo vuoto di potere già adesso allo scudetto? Sì, come ha detto lei, credo che il Milan obiettivamente abbia un qualcosa in più quando recuperi in pieno i talenti che hai, come Cassano, come Robinho, Pato, Ibrahimovic, certo. Insomma bisogna stare molto molto cauti, e per cui credo che il Milan sia quella destinata a salire ulteriormente. Le altre hanno espresso grandi cose a sprazzi, sia il Napoli sia la Juve, obiettivamente in questo momento è l'Inter forse quella più indietro anche come rendimento, come tutto, insomma. Però queste tre possono ambire, secondo me. Sì. Dopo due vittorie in fila, dove lavorerai settimana? Come lavorerai settimana? Tenendo bassa la cresta dei suoi? Sicuro, sicuro. Sicuro, perché è normale che sia così. Cioè, noi dobbiamo affrontare anche le nostre pari grado con lo stesso atteggiamento. È vero. Altrimenti incappiamo in cose spiacevoli. Quindi, ma credo che lo sappiano, ci conosciamo già dal finale dell'anno scorso, e allora mi auguro che di non dover calcare la mano su questo argomento. Arrivare lì e dire: non eravamo pippe prima, non siamo fenomeni adesso, sicuro, fate i bravi. È il solito discorso. Grazie. Grazie, bene, mister, grazie davvero, buonasera, arrivederci, grazie a Franco Colomba, moltissimi ascoltatori e mi fa un gran piacere. 800 24 00 24 numero verde, Daniele da Roma, è lì da prima, insomma, lo sentiamo subito. Buonasera. Buonasera. Dica, grazie per l'attesa, insomma. Grazie. Vedendo la classifica, sembra di vedere una classifica della serie cadetta, non quella di quest'anno, con un Torino a più 6, ma comunque un calcio qualitativamente livellato verso il basso. Una giornata tra le più brutte che io ricordi. Ah, su questo, no, beh, su questo non c'è dubbio. È record, finora è record. Non so se stasera Roma e Lazio. Tocca sperare nel derby di questa sera, che è con la speranza che il tiki-taka tentato da Luis Enrique non ci faccia tormentare. Cioè non ci faccia proseguire il sonno della giornata, lei dice. Esatto, no, poi tra l'altro prima pensavo a un passante che, come sapranno gli abbonati di Sky, oggi per fare un regalo ai 5 milioni di abbonati sono stati aperti tutti i canali, no, anche oggi sono stati aperti tutti i canali, mi dice Filippo Aureggi, tenta di correggermi dalla regia, ma è così, tutti i canali di calcio, e dunque cioè, è stato offerto questo spot da due gol segnati entrambi dal Bologna in sei partite. Beh, insomma, non è stato un granché, sfortunati anche, complice la sfortuna per la verità. No, Daniele, secondo te chi vince lo scudetto, al di là del numero dei gol e degli spot? Ritiene che ci possa essere un outsider quest'anno, visto il livello così basso? Ritenevo. Lei pensa di sì? Guardi, io sono uno juventino che è amareggiato da pareggi, sì, a Gogò, amante del bel calcio, che avevo visto dal Napoli e dall'Udinese inizio campionato e che adesso invece sento a trovare in qualsiasi squadra. Sì, allora io torno a ripetere quanto ho detto prima, l'outsider poteva essere il Napoli, poteva essere la stagione giusta per il Napoli in questo vuoto di potere, però queste due sconfitte, ricordo che insomma, la statistica e la storia dicono che se vuoi vincere lo scudetto più di 4 ne puoi perdere, siamo già a metà, ma questo vale anche per il Milan, insomma. Pensavo l'outsider potesse essere il Napoli, però la distrazione, lo stress, l'emozione, il sogno della Champions League pesano e peseranno su questa squadra non abituata a gestire, non dico il doppio palcoscenico, ma un doppio palcoscenico così importante, quindi primi posti del campionato e una Champions League tra l'altro in un girone tremendo, bellissimo, meraviglioso come quello in cui il Napoli sta andando davvero molto bene. Quindi questi punti io credo il Napoli li abbia lasciati per strada, li abbia regalati tra virgolette all'emozione della Champions League, altrimenti a quest'ora poteva già avere essere in testa alla classifica anche con un vantaggio consistente rispetto alla concorrenza, che poi quella reale credo sia attualmente il Milan, l'Inter persa nelle nebbie, proprio per questo poteva essere la grande stagione del Napoli. La Juventus è ancora da scudetto, non la vedo, però in un campionato così bizzarro, in cerca di autore, di padrone, di proprietario, tutto può essere. Io non continuo a non vedere ad esempio l'Udinese, che è meravigliosa, ma continuo a non vederla da scudetto, in tutta onestà. No, prima mi è arrivata una mail mentre ero in onda, poi ho controllato la posta durante il GR, ho trovato questa mail di Edoardo Cozzo, un ascoltatore di Cosenza, che scrive: volevo far notare la vergogna, perché di vergogna trattasi, di un Giro d'Italia che parte dalla Danimarca e tocca come punto più meridionale Frosinone, il sud non è compreso nell'Italia del ciclismo, una decisione incomprensibile che rende la Corsa Rosa quasi una riedizione del Giro d'Italia e nulla più. Beh, devo dire che il Sud è stato ampiamente toccato in tutte le ultime edizioni, quindi insomma, non mi sembra il caso di calcare la mano da questo punto di vista. Cristiano da Udine, poi Maurizio da Latina e Angelo da Firenze, prossimi ascoltatori. Dica Cristiano, buonasera. L'intervento di questa mail un poco ricalca quello che volevo dire anch'io. Sì. Paradossalmente per me questo giro a me non piace personalmente, ma credo che sarà comunque un grande giro. Non mi piace perché parte dalla Danimarca e essendo un'icona dello sport italiano, anche se non sono... Beh, ma sa, ormai si va alla ricerca di questi nuovi mercati, no? L'ha insegnato, la via è stata mostrata dal Tour de France, come lei sa bene. Posso comprendere delle esigenze economiche, visto anche l'esoso costo di una tappa al Giro d'Italia. Comunque, premesso questo, credo comunque sarà un grande giro. Non reputo che sia molto facile. Ma allora perché non le piace? Perché parte dalla Danimarca? No, esatto, semplicemente solo per questo. Ah, solo per quello. Solo per questo. Poi sarà un grande giro e, contrariamente a quello che dice anche Pier Augusto Staggi, peraltro mio grande amico, non credo che sarà un giro noioso, perché non è retorico dire che il ciclismo lo fanno i ciclisti e non il percorso. Sì. Il fatto che sia più umano è una metafora, va benissimo così, perché il ciclismo moderno deve essere assolutamente sì, più umano, e credo che dia molto spazio anche a corridori e a squadre di secondo piano che possono trovare spazio nelle tappe non molto dure e rendere vivace un giro che alla fine penso che sarà un grande giro. Sì, anche se sappiamo bene come le tappe pianeggianti o comunque quelle per attaccanti al Tour de France siano corse in una certa maniera, con medie pazzesche, con un'intensità agonistica esasperata, al Giro d'Italia spesso si riducono alle classiche tappe di trasferimento. Non vorrei che mettendone troppe, concentrandone troppe nelle prime due settimane, si annacquasse un po' il giro, disperdendone le caratteristiche, come si diceva prima con Pier Augusto Staggi. Comunque io la ringrazio, Cristiano, e così come ringrazio, saluto e ringrazio un volto noto come Tiberio Timperi, perché stiamo aspettando il derby insieme a lui. Ciao Tiberio. Buonasera. Buonasera a lei. Senti, io penso che aspettare il derby nella Roma di oggi sia abbastanza surreale, tanto per cominciare. Beh sì, insomma, è una Roma un po' strana. Stamattina, finito il programma, ho fatto un giro per San Giovanni, Viale Manzoni, che poi sono le zone dove io sono cresciuto, avevo il liceo in Viale Manzoni, già con Newton, e c'erano ancora tutti quanti i segni sull'asfalto, sulle automobili. Sono delle ferite che non si rimargineranno molto facilmente, ecco. Detto questo, c'è un'attesa per questa partita di stasera che forse viene vissuta da molto tanto come una forma veramente e realmente d'evasione. Ho evitato accuratamente di girare al largo dei dintorni dello Stadio Olimpico, quindi ignoro in questo momento se ci sia un servizio d'ordine, quale sia l'afflusso allo stadio, però mi auguro che questa sera, insomma, si dia un segnale da qualche parte, sì, che la società cosiddetta civile si organizzi un pochino meglio. Sì, ecco. Perché sarebbe insopportabile, dopo quello che abbiamo visto ieri, trovare anche dei disordini intorno al derby. Quindi possiamo appellarci alla civiltà di chi andrà a questa partita e delle due tifoserie. Questo sì, sì, è così, sì, no? Sì, io per quanto riguarda mi sto organizzando per vederla con degli amici a casa. Sì. Che è diventato, per certi versi, soprattutto quando hai un figlio, il modo più comodo e sicuro per vivere uno spettacolo sportivo. Diventa l'aggregazione, che ne so, magari del condominio, sì, diventa l'aggregazione di amici che magari riescono a ritrovarsi proprio e si coagulano con queste situazioni sportive. Da una parte è bello, dall'altra significa che probabilmente non hai voglia di prendere dei rischi inutili per vivere certe manifestazioni. Sì. Ripeto, con mio figlio di 7 anni allo stadio non mi azzarderei mai ad andare, sì, soprattutto al derby. Poi, per carità, partiamo sempre dal presupposto, e siamo ottimisti, che le cose possono andare bene, come è giusto che sia. Certo che mattina in famiglia non deve essere stata semplice stamattina, attraversando, magari anche andando a lavoro, attraversando la Roma, e torno su questo punto, lasciata nelle condizioni di ieri. Ma guarda, io abito nel quadrante nord, che è dalla parte opposta dove si sono verificati gli incidenti, perché gli studi sono in via Teulada, io sì, abito non molto lontano da lì, per cui quella Roma lì proprio non l'ho vista. Devo dire che l'ho seguita ieri da Rai News, che ha fornito un eccellente servizio e che ha fotografato la realtà minuto per minuto. C'è stato, mi rendo conto, forse un po' di, non so in che misura, un po' di voyeurismo nel vedere. Certo, certo. Volevo capire, certo, quello che stava succedendo in quell'istante, e ho trovato una testimonianza eccellente da parte di Corradino Mineo e di tutta la sua squadra. Complimenti, insomma, questo è lo spirito del servizio pubblico, insomma. Certamente. Andando invece sulla partita, guardandoli dalla sponda opposta alla tua, Di Benedetto che fa il presidente stipendiato ti fa sorridere o cosa? Il presidente stipendiato vuole 1 milione di euro per fare presidente della Roma, perché dice: sono a capo di una cordata di imprenditori, adesso il mio lavoro sarà gestire la Roma, e quindi piglio 1 milione di euro. Forse avrà letto che Rosella Sensi ne prendeva 1,1 milioni per fare AD della Roma, ha detto: perché io no? guarda, io ho mio cugino che è molto competente di calcio, sì. e credo che insomma costerebbe molto, ma molto di meno, e avrebbe molta più passione. Si chiama Alderico, Timperi, lo dico, è uno che ci capisce di calcio, per cui insomma credo che si accontenterebbe anche, che ne so, di 100.000 euro, anche solamente il piacere di entrare nel Santo Sant'Ono, perché io sono l'unico laziale in una famiglia di romanisti, per cui sai, io sono stato sempre contro, sempre lo spirito di contraddizione, per cui vengo da una famiglia di romanisti, sarebbero molto contenti, ecco, credo che lo farebbero anche gratis. Lo farebbero anche gratis, penso anch'io. Lotito ha detto, ma io i soldi non li piglio, l'ha detto subito, da noi i soldi non li prende nessuno, Insomma, forse li prende tutti quanti lui. O forse li prende tutti lui. Però sì, devo dire, guarda, Lotito, onore al merito, è stato uno che è ritornato, ha fatto ritornare il calcio un po' con i piedi per terra e con i conti non in rosso. È uno molto attento al soldo, e va bene così, insomma, perché ormai ci sono delle cifre intorno al calcio, rodano delle cifre veramente pazzesche. Non voglio fare retoriche, perché poi comunque creano occupazione, c'è un indotto molto importante, ma per carità, insomma. Però le cifre che girano ti fanno rimanere lì e ti fanno dire, ma cosa, io faccio fatica ad arrivare alla fine, insomma, solite cose, sì, no? Attenzione a non fare della demagogia, è molto facile fare demagogia e retorica sul calcio. Assolutamente. Perché la potremmo applicare anche alla televisione, poi la potremmo applicare. Ma la mia idea comunque è antiretorica, nel senso che sono lavoratori infungibili e dunque le leggi di mercato, possiamo essere molto invidiosi, ma dicono che insomma quei soldi in qualche modo possono essere giustificabili. A fianco al campione che prende una carrettata di milioni, c'è poi anche il ragazzotto appena arrivato che prende due soldi e però sta lì e fa gavetta, un po' come per la televisione, ci sono conduttori che riescono a coagulare contratti milionari e poi ci sono conduttori che lavorano onestamente, guadagnano bene, ma sono lontani anni luce da certe cifre e fanno quel lavoro perché amano quel lavoro e probabilmente sanno fare solo quel lavoro, per cui certo, non è così. Senti, prima di salutarti, abbiamo in linea un signore che qualche gioia te l'ha data, come Enrico Chiesa. No, non ce l'abbiamo più in linea, Enrico Chiesa, adesso lo richiamiamo. È un peccato perché una tua domanda, Enrico Chiesa, mi sarebbe piaciuta. La farò io per te. Tiberio, ti ringrazio, buon derby. Grazie e buon lavoro. Grazie. Ciao. Grazie Tiberio Timperi. Dunque, in attesa di sentire il bomber, oggi i telefoni sono così, perdonateci, ma tant'è. 800 24 00 24, Maurizio da Latina, dica. Ah, buonasera, dottor Genta. Buonasera. Dunque, io volevo fare due considerazioni. La prima considerazione, la seconda un parere. La prima riguarda Robinho e davvero mi sta meravigliando perché era stato in Italia con delle credenziali completamente diverse. Un giocatore di qualità, di grande qualità, ma di grande quantità, almeno sta dimostrando di essere un giocatore umile che si mette a disposizione della squadra. Robinho è stato molto, guarda, glielo dico subito, Robinho è stato molto intelligente, è stato molto intelligente nel cambiare pelle, era una superstar un po' bizzosa, ce lo ricordiamo in Inghilterra, ce lo ricordiamo nel Real Madrid, è arrivato al Milan, ha capito che quella era la grande chance, l'ultima, forse l'ultima grande chance della sua carriera in un top team. E ha detto, se c'è da correre corro, se devo giocare trequartista gioco trequartista, se devo fare chilometri faccio chilometri, e si è diventato un giocatore importantissimo in questo Milan, quindi si è dimostrato in questo senso un giocatore di grande intelligenza, a mio parere. È arrivato davvero stavolta Enrico Chiesa. Ciao bomber. No, non c'è, vediamo se ce la facciamo. Enrico, ci sei? Sono. Eccoci, finalmente. Dammi subito una. Prima volevo farti chiacchierare con Tiberio Timperi, il laziale, cui hai dato qualche gioia quando vestivi la maglia della Lazio. Ti chiedo subito una lettura di questo derby che stiamo aspettando. In una giornata senza gol come questo. Sicuramente un derby interessante con due squadre un po' ancora da scoprire, soprattutto la Roma che ha cambiato sia l'aspetto della societario e staff tecnico e qualche giocatore. La Lazio è un'incognita ancora, la vittoria di Firenze mi ha dato sicuramente morale, perciò arrivano due squadre un po' così ancora da scoprire, però come tutti i derby, io ne ho fatti quattro quell'anno che ero alla Lazio, veramente sono derby molto intensi che vanno al di là del risultato, sì. Un gran grande tensione, veramente motivazione. Io credo, Enrico, chi sta più tranquillo forse vincerà. Sì, io credo che il derby sia un handicap se vuoi vincere lo scudetto a Roma, cioè è troppo pesante questa partita per le due squadre, cioè è una cosa che lascia dei segni, che lascia dei contraccolpi troppo pesanti. Sicuramente, il derby veramente è una partita, o sono le partite di un anno per la Roma veramente che si sentono, e chi vince, chi fa risultato ne trae delle conseguenze molto positive e importanti, e perciò io credo che stasera, come ho detto prima, è una partita delicata per tutti e due, anche perché sono all'inizio del campionato, tutti e due si devono scoprire, devono cercare di capire che squadre e che campionato dovranno fare, perciò chi uscirà indenne da questo derby, soprattutto chi farà il risultato pieno, sicuramente avrà una strada diversa. Enrico, in questo vuoto di potere che si è creato con l'Inter che è arrivata, ora abbiamo le prove alla fine del ciclo, con il Milan che sta tentando di recuperare, con la Juventus che secondo me non è ancora all'altezza, con il Napoli che ha la Coppa e che drena punti, in questo vuoto di potere chi si può infilare? Io credo che un campionato potrebbe essere un pro Juventus, nel senso che è la squadra che in questo momento, la squadra quadrata, la squadra che ha iniziato un ciclo nuovo, con lo stadio nuovo, e sappiamo benissimo cosa porta, porta dei punti, porta entusiasmo anche per i tifosi, anche se ha pareggiato oggi, però è la squadra che attraverso il gioco cerca sempre di vincere, la squadra più quadrata. L'Inter deve tornare a giocare, come hai detto te, sicuramente sarà finito un ciclo, però deve tornare, se deve volpire i punti, sicuramente giocare da provinciale, una squadra che deve entrare in campo e cercare di fare il risultato a tutti i costi, non tanto col bel gioco, ma soprattutto con grande motivazione, perché sennò si troverebbe poi in situazioni veramente sgradevoli, che poi è dura, ecco, essendo una grande squadra poi è dura veramente trovarsi in situazioni così pericolose. Ecco. Le altre, Napoli, è normale che può capitare in Napoli una sconfitta, bravo il Parma, ha fatto una vittoria, e il Milan, credo che il Milan si aggrappa sempre a questi grandissimi giocatori che ha in una rosa veramente straordinaria, che ti possono cambiare il corso di una partita. Ma vedi, la Juve non ha questi giocatori cui aggrapparsi, è questo il limite. Cosa? La Juventus non ha giocatori di quel tipo cui aggrapparsi nelle giornate difficili. Sì, però la Juve attraverso il gioco, attraverso le motivazioni, attraverso questo cambiamento si può dire radicale, l'allenatore, lo stadio nuovo ha messo insieme un qualcosa di importante, magari non ha i giocatori di altre squadre, l'Inter, la rosa dell'Inter, del Milan, se prendiamo, citiamo due squadre le due milanesi, però se andiamo a vedere la Juve, è una Juve che attraverso il gioco, attraverso certe situazioni di reparto cerca di vincere la partita. Chi ha visto la Juve, io credo che ha visto una squadra ben quadrata, poi può vincere, può perdere, però se abbiamo visto la partita col Milan, è una squadra che fino al 90esimo cerca di vincere in tutti i costi la partita. Ah, sicuro, di me, come mentalità non si discute. Grazie Enrico, buon viaggio. Grazie a voi, buon proseguimento, ciao. Grazie. Dunque torniamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24 il numero verde. Angelo, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo fare una considerazione sul Napoli, una premessa dicendo che sono d'accordo con lei sul fatto che il Napoli ha ceduto dei punti in funzione della Coppa, perché sia la sconfitta col Chievo, la famosa sconfitta del turnover, che questa col Parma, sono arrivate prima della trasferta di Manchester e ieri sera. Quindi sono d'accordo con quello che ha detto. La considerazione che volevo fare, volevo chiedere anche a lei, è che comunque il modulo del Napoli è questo, cioè un modulo che prevede la velocità dell'attacco e che quindi va bene quando il Napoli viene attaccato, cioè quando la squadra avversaria costruisce, non certo quando la squadra avversaria, tipo ieri sera o altre volte, deve essere il Napoli a far la partita. Sì. Cioè gioca molto meglio di sponda, di rimessa, di contropiede. Questo sì per caratteristiche, per caratteristiche, insomma, lo leggo anche in molti messaggi ed è condivisibile. Quando il Napoli è chiamato a fare la partita, come capita e capiterà sempre più spesso, perché il ruolo della grande squadra, quale Napoli vuole essere, è spesso anche questo. Le altre, soprattutto quando giochi in casa, arrivano lì, ti aspettano e devi essere bravo a crearti le situazioni. Però io credo anche che il Napoli abbia dei giocatori in grado di, insomma, di far saltare questo tipo di banco. Non è destinato ad arenarsi ogni qualvolta trova una squadra che arriva per fare la partita di rimessa, perché comunque giocatori come Lavezzi e Hamsik sono saltano l'uomo perché hanno talento a sufficienza. Io credo che il Napoli abbia sufficienti colpi per uscire da situazioni di questo tipo, anche se non sono le sue partite ideali. Continuo a pensare che alla Coppa abbia sacrificato qualche punto in campionato e che magari potrebbe andare avanti a sacrificare qualche punto in campionato alla Coppa da qui alla fine del quantomeno della prima fase almeno. Massimo da Como, buonasera. Buonasera, innanzitutto complimenti per il garbo con cui grazie conduce la trasmissione. È l'unica trasmissione che seguo al di là delle partite, quindi prima e dopo per me esiste benissimo. Poco. Questo è un complimento sincero. Grazie. Volevo fare una considerazione, se possibile una domanda. La domanda riguarda una squadra di Serie B che mi sta molto a cuore, del Toro. Sì. Volevo sapere da lei se considera Ventura veramente un allenatore che insegna calcio, visto che molto spesso parla e ne trovo pochi di allenatori di competenze rispetto ai propri giocatori. E quanto pensa che un allenatore come Ventura possa essere l'unico che in questo momento possa far bene su una piazza complicata come Torino, dove hanno fallito praticamente tutti negli ultimi anni. Sì. La seconda è una considerazione rispetto a un argomento molto interessante che sentivo trattare un paio di settimane fa. Sono in ritardo, ma quel giorno non ho fatto in tempo. Non c'è problema, La spettacolarizzazione del calcio, a mio avviso, cioè il fatto che un paio di settimane fa sentivo parlare di quanto poco tempo e pazienza ci sia rispetto agli eventi, no? Alle partite. Io immagino una situazione di questo tipo. A mio avviso il calcio si sta avvicinando sempre e troppo a eventi di spettacolo, come possa essere un evento, non so, un film, uno spettacolo visto una volta sola e consumato in breve periodo. Quindi la partita deve essere sempre la partita della vita, come il film che esce nelle sale fa una settimana. Sì. Non so se il paragone può durare. Sì. Credo che questo stia facendo male al calcio, perché lo inquina, perché trovo che ci siano atteggiamenti da parte dei calciatori che siano poco consoni nella loro professione. Questa è una mia sensazione da innamorato del calcio. Ma atteggiamenti di che tipo? Ma da prime donne, atteggiamenti che appartengono più a vivi dello spettacolo che non a sportivi che dovrebbero pensare. Sky delle volte fa vedere delle immagini dove alcuni calciatori si pettinano prima di entrare in campo. Sì, vabbè, ma c'era anche ora... Beckham che si profumava la maglietta, insomma, prima di entrare in campo. Quindi, insomma, sono delle superstar e sanno benissimo, sono perfettamente consci del loro stato di superstar, qualche volta un po' bizzose. Prima citavo Vargas che non sembra così interessato a rimanere alla Fiorentina e che fa una vita non a quanto dice il suo allenatore, non da professionista, ed è stato per questo lasciato fuori. Però al di là di quello, i calciatori sono delle superstar mediatiche e questo dobbiamo grosso modo accettarlo, cioè indietro non si torna. È chiaro che in passato non conoscevamo quali erano i vezzi e gli atteggiamenti dei giocatori di calcio, oggi sappiamo praticamente tutto. Quanto alla spettacolarizzazione, non saprei dove si vuole arrivare. È chiaro che aumentando e moltiplicando il numero delle partite, secondo me si va incontro a degli spettacoli che rischiano di essere più poveri, questo certamente sì. Quanto a Ventura, non so se sia è un eccellente allenatore di calcio, non so se sia un maestro di calcio, certamente è uno che, ad esempio, dal punto di vista mediatico, spiega il calcio molto bene, come pochi. Il Torino quest'anno ha trovato l'allenatore corretto, credo, e ha trovato soprattutto una chimica di squadra che mai aveva avuto nelle ultime stagioni. È una squadra di categoria, è una squadra che ha il talento necessario e sufficiente, è una squadra che ha i giocatori che servono per vincere un campionato difficile come quello della B. Io credo questo. Mario Firenze, buonasera. Buonasera anche a lei, grazie di farci compagnia. Ma grazie a lei, dica. Mentre si viaggia noi ci fa compagnia. Senta, le volevo fare due o tre domande così. Una sulla Fiorentina e sulle squadre grosse. La Fiorentina, se ci fosse stato sempre Prandelli con questa squadra qui, secondo lei se avesse qualche punto in più? E poi sulle altre squadre grosse, quando ora arriveranno, spera, i terreni pesanti, sia la Juventus, l'Inter, il Milan, con gli uomini un po' anziani, dove possono arrivare? La ringrazio. Ringrazio lei, non so se con Prandelli ci sarebbe stato qualche punto in più per la Fiorentina, mi sembra un discorso abbastanza accademico. Cosa dice? Magari sarebbe stato qualche punto in più con qualche gol in più di Gilardino e se Semiron aveva le ruote era una cariola, non credo che Mihajlovic abbia grandi colpe. Fiorentina è una squadra ristrutturata, una squadra molto giovane che ha speso molto meno rispetto ad edizioni precedenti e dunque sta facendo in linea di massima la stagione che deve fare. Altra notizia di ieri, non solo quella dell'esclusione di Vargas per motivi tra virgolette disciplinari, ma anche quella del rinnovo del contratto di Jovetic, cioè questa mi sembra una notizia positiva per i Viola. Quanto ai terreni pesanti, alle squadre grosse, intendo, credo fisicamente, credo che lei facesse riferimento a questo tipo di accezione, tornando al discorso di prima, che è molto semplice, il Milan è la squadra più forte d'Italia e non ho dubbi, è in ritardo, ha diversi problemi, non so se e quando riuscirà a risolverli tutti, però rimane la grande favorita. Dietro al Milan, in una rosa ideale di favoriti, io sinceramente non riesco a vedere altro, perché o meglio, vedrei il Napoli con tutte le incognite di cui si è detto, non sono convinto che la Juventus sia ancora con questo organico da scudetto e l'Inter secondo me è fuori dalla lotta e ci resterà, perché non credo, addirittura non sono così convinto che l'Inter possa arrivare tra le prime tre, quindi possa disputare la prossima Champions League. Certo che il mio amico Filippo Maria Ricci ha avuto un bel da fare per la Gazzetta dello Sport dalla Spagna, tra Messi e Higuaín, che in due hanno segnato praticamente la metà dei gol che abbiamo visto nel campionato italiano in questo weekend, 5 contro 11. Ciao Filippo. Buon pomeriggio, perché mi stai disturbando, volevo vedere i gol qua al 90° minuto della Serie A. Allora vado avanti a disturbarti perché c'è poco da vedere. 5-0 su 6, oggi andiamo bene. Sì, non male, due gol segnati in Novara Bologna e tutto il resto reti bianche. Sì, 11 squadre su 12 non hanno trovato la via della rete. Non hanno. Vabbè, possiamo andare avanti così. Mi piace? Certo che mi piace. Mi piace anche Messi, che il gol che ha fatto ieri sera. Messi, no. 103 gol nelle ultime 100 partite. Sì, Ronaldo è fermo solo al 95. Staccatissimo. Sì. No, il primo gol è una cosa meravigliosa. Sì, maradonesca, no. Maradonesca. Sì, sì. Io detesto questo parallelo, ma maradonesca vera. L'hai detto, maradonesca, la cosa più bella è che sia lui che Higuaín, che hai citato all'inizio, vengono da una sconfitta col Venezuela. La prima storica sconfitta dell'Argentina col Venezuela. Non so. E sono sempre gli stessi giocatori, eh? La maglia albiceleste che chissà quanto pesa, oh. Pesa proprio lì. Non è un problema di sudorazione della Nike, sai che hanno dovuto cambiare le maglie del Barcellona perché pesavano troppo, no? Sì. E non so se anche quelli dell'Argentina lì hanno dei problemi. Sì, io continuo però Filippo, guarda, oggi sembra di bestemmiare in chiesa, però continuo a pensare che Messi, rispetto al paragone irriverente che detesto, non abbia quel tipo di personalità, cioè. No, io ne parlavo, guarda, mercoledì sera a cena con illustri colleghi argentini. Non si rendono conto che il povero ragazzo non può prendersi tutte quelle responsabilità, perché comunque l'Argentina la conosce anche poco. Sì. Cioè, Maradona era argentino, Messi è andato via a 12 anni, sì, ci torna, hanno creato una mini Rosario a Barcellona, però non è il suo pane, soprattutto a livello proprio di nazione. Di peso specifico non lo sarà mai. Potranno vincere il mondiale quando dagli la fascia di capitano, da quello che mi raccontavano loro è addirittura un errore. Certo. Il giorno che gliela danno lui va da Verona e gli dice: ma adesso cosa faccio, cosa devo dire? Sì, io sì, ce lo vedo. No certo, non ha quel tipo di persona, cioè non possono chiedere a Messi di fare Maradona perché Messi ma è Messi. Non ha il fisico, ma soprattutto non ha la testa. E poveretto, infatti si vede che vuoi dire, come può trasformarsi così. Ha fatto il gol nell'altra partita che hanno vinto con la tripletta di Higuaín, non segnava da 16 partite in nazionale. Cioè, Barcellona appunto ha fatto 103 gol in le ultime 100. Sì. Come fa a fare 16 partite senza far gol? Vuol dire che c'è un problema di carattere psicologico per me, prima ancora che tattico. Certo. Perché anche se la schieri male la squadra, più o meno Messi dovrebbe far gol lo stesso. Sì. No, ma questo è l'errore. È questo l'errore. Cioè quello di dire: ma tanto c'è Messi e quindi tutti gli altri si mettano lì e cerchino di porre le condizioni ideali per fare Messi. Il problema è che Messi non è Maradona e quindi quindi nel Barcellona è questo che vediamo, nell'Argentina è un giocatore fortissimo quanto spaesato, Filippo. Sì, invece dall'altra parte della sì. pagina tua della Gazzetta, ma della barricata, ritrovano anche Kakà, ma adesso attenzione, chi li fa? Ritrovano, è riuscito a miracolare anche Kakà. Insomma, adesso siamo a 4 partite, no? Perché qui lui io ci ho parlato dopo la seconda e lui mi disse no, sono 2 partite, dice già meglio di una, perché una ne avevo giocata bene ogni tanto, con grande onestà mi disse, no? E dice però ne voglio giocare bene qualcuna in più. Adesso siamo a 4, insomma è già un buon numero. Sì. Ieri sempre un pochino intermittente, però bene, un gol spettacolare. E poi un sorriso, una voglia che non gli vedevo da anni, e vediamo, no, è ancora presto, perché voglio dire, appunto 4 partite non sono niente, però diciamo che a Madrid una serie così di Kakà non l'hanno ancora mai vista. Non l'avevano mai vista. Senti, per chiudere invece, Mourinho tranquillo? Non sento più parlare di lui, sono quasi un po' preoccupato. È la fase tutti amici. Ah, tutti amici? Tutti amici, il buonismo assoluto, buone parole, la nuova hanno, diciamo che dopo una riunione anche con i giocatori, sì. dopo il pareggio di Santander e con colloquio con Florentino Perez, adesso si è inaugurato il nuovo corso, Amici si chiama. Si chiama Amici, secondo me ha fiutato l'aria, che non era profumatissima. No, e comunque vabbè, era facile passare, diciamo, fare il buono dopo tutto il casino che aveva combinato, insomma. Magari si era anche stancato, lui è uno che vuole cambiare. No, la strategia è questa, suggerisce in questo momento di tenere i toni bassi, vedrai che tornerà. Fino verso i primi di dicembre, quando ci sarà il classico. Esatto, poi lì, Amici, vediamo, con calma, esatto, vediamo con vabbè, anche nel celebre Amici. Poi dopo si scannano, no? Nella trasmissione televisiva. Certo, no? Come no. E quindi finirà così. Grazie Filippo, buon lavoro. A voi. Alla prossima. Marco. Grazie Filippo Maria Ricci. Marco da Novara, buonasera. Buonasera e complimenti anche da parte mia. Un po' grazie. Di riferimento per tutti, anche per noi. Cerchiamo di fare onestamente un mestiere simile al suo. Sono tutta la radio, complimenti. Grazie. Io rientro dallo stadio di Novara e in questi anni di marginalità dal calcio che conta, a Novara ovviamente seguivamo con un certo distacco e curiosità quello che succede in Serie A. Oggi devo dire che mi è ritornato in mente un termine che se non ho ben compreso ai tempi, magari lei ci può aiutare, che è la sudditanza psicologica, e mi spiego perché sennò si mette a ridere subito. Sì. Non sto qui a dire che il Bologna faccia timore, questo, sì. Faccia timore all'arbitro o cose di questo tipo, perché riderei da solo. Ma mi sembra di capire, e qui chiedo, che un Novara praticamente dato per spacciato da tutte le agenzie di scommesse, con credenziali tecnico-tattiche tutte da verificare, almeno così mi pare, siamo una specie di squadra curiosità-simpatia. Sì. In un arbitro fresco della Serie A come quello di oggi, ho l'impressione che prendere decisioni difficili come quelle che avrebbe dovuto prendere in un primo tempo, secondo me, tra i migliori giocati del Novara in questa stagione. Sì, sì. È un po' timorale, c'è un po' di timore da parte del spero che mi sia. Sì, però non, la invito a non leggerci dietro disegni oscuri che portano chissà dove, dalle scommesse ai bookmaker a qualcuno che al grande vecchio che vuole far tornare il Novara in Serie B. La gara del Novara di oggi è stata sfigatissima, perché questa mi pare la parola giusta. È vero, ha giocato un grandissimo primo tempo, ha avuto qualche fischio contrario, e questo può essere, ha beccato il gol tra l'altro colmo della sfiga al quarto minuto, se non ricordo male, al terzo minuto di recupero del primo tempo. L'arbitro ne ha dati 6, perché in quel primo tempo è successo di tutto, si è fatto male il portiere che poi è stato sostituito, sono fatti male un sacco di giocatori, cioè dove lo vai a trovare un primo tempo così bizzarro, l'arbitro dà 6 minuti di recupero, che comunque mi sembra un'enormità in tutto, nonostante quello che è successo, e va a beccarti l'unico gol dei primi tempi al 49esimo. Incomincia la ripresa, prende un altro gol in contropiede, squadra sbilanciata, ha avuto anche la sfortuna di trovarsi contro un Bologna con Pioli al debutto. Insomma, il Novara ha pagato un po' tutto questo, non mi sembra però il caso di parlare di congiure. Dunque, dobbiamo fermarci, dobbiamo chiudere. Non faccio neanche in tempo a farvi ascoltare la copertina del derby di Roma. No, va bene. Comunque, ve lo racconterà Dario Ricci in serata. Noi ci ritroviamo dalle 8:30 alle 9, dalle 20:30 alle 21 per raccontarvi la giornata di basket in Palla Spicchi. Io ringrazio Viola Bottoni in redazione, Filippo Aureggi in regia e vi do appuntamento più tardi.